Buon pomeriggio a tutti e è con molto piacere che apro questa tavola rotonda. L'abbiamo intitolata Storia, Memoria e Immaginario del Mondo Globalizzato e sono tutti temi che significano e riguardano molto da vicino le linee di ricerca che noi affrontiamo all'interno di questo dipartimento di recente istituzione e di un dottorato che è nuovo e che associa in una cornice comune studenti che si occupano di ambiti e linguistico-culturali molto distanti, ma distanti in un quadro in realtà di crescente avvicinamento, che è proprio questo orizzonte del mondo globalizzato. E sono davvero contenta di aver creato questa occasione, spero feconda di confronto per tutti, invitando Serge Kosinski, che è uno storico che di questi temi si occupa, ha un osservatorio particolare dal punto di vista cronologico, la prima età moderna, dal punto di vista dei luoghi, il mondo iberico, in occasione dell'uscita del suo ultimo libro, un libro che viene qui per la prima volta presentato in italiano. Il titolo è Histoire pour quoi faire, è un titolo provocatorio, soprattutto per un osservatorio come il nostro, l'Italia e l'Europa, insomma siamo la cuna di questo modo di registrare, narrare e organizzare il passato, la storia. Cosa ne facciamo della storia nel mondo globalizzato? E il professor Kosinski questa mattina ha risposto a lungo a queste questioni in un'intervista che abbiamo registrato nello studio televisivo del Polo di Sesto e che verrà acquisita da Portale d'Ateneo, quindi chi è curioso potrà ascoltare la presentazione del suo itinerario intellettuale. Devo dire, lo dico ai colleghi, quello studio è una meraviglia e quindi, e soprattutto possiamo creare un incredibile archivio intervistando persone che hanno questa esperienza di ricerca che ci significano se ci vengono a trovare a Sesto, quindi abbiamo uno strumento, una ricchezza del tutto particolare con dei giovani competenti e curiosi che poi hanno fatto anche loro le domande, per cui insomma è un caso un po' particolare. Quindi l'intervista offre tanti elementi, io non mi soffermo quindi se non a presentarvi del tutto rapidamente il professor Kosinski, che è un americanista di formazione, ma in realtà attraverso il suo oggetto di studio, il Messico coloniale, un Messico che però poi diventa il fulcro di una riflessione di ben più ampio respiro cronologico e spaziale, è oggi un riconosciuto storico globale, di una storia globale però non a tesi, non teleologica, ma fondata proprio sulla ricostruzione delle connessioni tra le aree di civiltà, a partire da un osservatorio specifico, che è quello dell'Europa, in particolare dell'Europa mediterraneo-iberica, che si articola in una trama di relazioni su uno spazio che diventa intercontinentale. Segnalo anche in questo caso che quest'estate, nel quadro di un congresso di scienze storiche che si tiene in Cina, il professor Kosinski riceverà un premio che gli viene riconosciuto dalla comunità internazionale degli storici proprio per questo respiro di prospettive. E un respiro di prospettive che ha avuto nella storiografia europea dei padri nobili, che oggi sono in qualche modo dimenticati, forse non sufficientemente frequentati, e non mi vanno due grandi francesi che sono Fernand Caudel da un lato e Bianchon dall'altro, che dialogavano con la molteplicità delle lingue europee, l'italiano, lo spagnolo, il portoghese, l'inglese e il francese, cioè l'idea di un'Europa plurilingue in cui le esperienze entravano in connessione tra loro e non in spazi separati. Ecco, il testo che ci presenta, abbiamo deciso di metterlo alla prova di un confronto con le competenze molto ricche che configurano il nostro dipartimento e i docenti che vi operano e anche le prospettive del dottorato. Quindi interverranno a discutere i temi e i motivi del libro. Una prevalenza siamo sulle quote, siamo tutte femmine, qui i maschi scarseggiano, insomma, ci perdonerete, per una volta siamo egemoniche. E quindi saranno colleghi e colleghi che hanno competenze che una persona come me invidia moltissimo, cioè la possibilità di accedere non dall'esterno, guardando dalla finestra dello sguardo degli europei, ma di entrare in quei mondi attraverso il cinese, l'arabo, l'hindi e gli facendo, oltre a tutta l'esperienza invece dei mondi che sono stati uniti dalle grandi lingue imperiali, lo spagnolo, il portoghese e via dicendo. Ecco, quindi ci sarà una discussione. Io ringrazio tutti voi per l'amicizia con cui avete accolto questo progetto, perché non è scontato che ci si riunisca un pomeriggio per far circolare le idee di questi tempi, quindi io ne sono molto contenta. Cedo la parola all'autore, che parlerà, ci presenterà il profilo del testo, gli interrogativi che lo animano. Mi perdonerete un piccolo riferimento a queste due immagini, a me mi diverto a fare gli accostamenti, quindi ve la volevo spiegare molto rapidamente. La poco leggibile immagine in alto è un mappamondo del 1502. Nel 1502 ha luogo il secondo viaggio portoghese lungo la rotta del Capo, e quindi questo mondo per gli europei si apre, e c'è già un profilo dell'America, ma tutto questo si chiama India. E questa è l'inaugurazione a Pechino nel 2008. Serge, nelle pagine del suo libro, si sofferma su questi aspetti che mi ha sollecitata, e questo è uno dei momenti di questa celebrazione della centralità del mondo sinico, che viene ridefinita però attraverso l'idea di un mondo che è piccolo, centrale, però nel cuore di un grande stadio cinese, con tutta questa variegata umanità che lo guarda. Quindi abbiamo il senso del percorso che è stato fatto nel creare trame e integrazioni tra le parti del mondo. Allora io lascio la parola a Serge Grudzinski, che ci parlerà e che tiene molto a partire, o quantomeno a valorizzare la capacità di questa immagine di mettere in relazione tempi, stratificazioni di memoria lontani tra loro apparentemente, e a parlarci anche, a farci interrogare sul futuro. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie Maria Matilde, grazie per l'invito e per le immagini. No? Mi dispiace se devo ripetere alcune cose di ieri pomeriggio. Cercavo di non ripetere troppo le stesse cose, perché sempre. Perché sempre è acceso. No? Adesso sì. Dunque, parlando di questo libro che è uscito a Parigi quest'anno nei primi giorni di gennaio, diciamo che due sono le ragioni che mi hanno spinto a scrivere questo libro, che a differenza degli altri non è nato dalla scoperta di un documento oppure della discussione di una problematica, come è stato il caso ormai anni fa per la pensée métisse o la guerra delle immagini, il problema del diciamo, il problema delle immagini. Si tratta, queste due ragioni, sono due ragioni che si sono imposto a me come delle vere e proprie sfide. La prima riguarda la possibilità di insegnare le stesse cose a studenti europei a Parigi, americani, latinoamericani a Princeton, brasiliani nell'Amazzonia, nella città di Belém do Pará. Ossia, esiste una domanda, esiste una mercanzia internazionale e europea chiamata storia che può essere consumata da studentesse e da studenti che vivono in diverse parti del mondo e in condizioni del tutto dissimili. È la prima ragione. L'altra sfida non ha nulla da vedere con la mia vita professionale, almeno per quel che riguarda le sue origini. Due anni fa un docente di un liceo francese ha utilizzato il mio libro, L'Aigle et le Dragon, L'Aquila e il Dragone, nell'ambito del corso di storia che corrisponde al primo anno della scuola media superiore. Questo professore insegna nella città post-industriale di Roubaix, nel nord della Francia, in un liceo tecnologico. Il programma di storia del primo anno della scuola media superiore prevede lo studio delle relazioni tra l'Europa e il resto del mondo. In questo libro, nel mio libro L'Aigle et le Dragon, ho messo a confronto due eventi cronologicamente contemporanei. Da una parte, la famosa conquista spagnola del Messico e dall'altra parte, il quasi sconosciuto tentativo portoghese di conquistare la Cina. Tale confronto ci offre la possibilità di affrontare molti temi oggi importanti. Clashes of civilizations, colonizzazioni, incontri e mescolanze, identità, alterità, eccetera. Dunque di affrontare molti temi a partire da situazioni abbastanza remote nel tempo e nello spazio per non suscitare negli alunni immediate reazioni di allergia o di rifiuto. Queste reazioni di allergia e di rifiuto sono tipiche di fronte a temi controversi, in particolare una città come Roubaix che ha perduto tutte le sue industrie tessili e che ospita oggi un'importante popolazione di africani e nordafricani, quasi tutti musulmani, tra i quali moltissimi giovani senza lavoro e senza un futuro tracciato. Di fatto, la maggior parte degli studenti del mio collega del liceo di Roubaix erano musulmani e pochissimi conoscevano la città molto vicina di Lille, che è, come sapete, il capoluogo di questa regione della Francia settentrionale. Vi ricordo che Roubaix è la prima città francese a inviare combattenti jihadisti in Bosnia nelle guerre jugoslave che hanno coinvolto diversi territori appartenenti a questo paese, l'ex Jugoslavia, tra il 1991 e il 1995, causandone la dissoluzione. Ricordo anche che la storia locale di Roubaix, di questo centro urbano, ha conosciuto negli ultimi 20 anni episodi particolarmente violenti e sanguinosi. È il caso, per esempio, della fine drammatica del gang di Roubaix nel 1996, un gruppo vicino al Qaeda che ha colpito l'opinione pubblica. Su YouTube voi potete incontrare un film su questo gang di Roubaix fatto dalla televisione francese. In queste condizioni difficili, quale visione del passato offrire a questi giovani che hanno tutti una visione piuttosto negativa dei valori ufficiali predicati da una Repubblica francese che imponeva il lavoro forzato nelle sue colonie, che non ha mai messo in discussione il suo passato coloniale e che oggi non è capace di offrire loro un lavoro e uno spazio nella società nazionale. Nel corso dell'intero anno scolastico, il mio collega del Roubaix ha fatto dunque lavorare i suoi studenti sulle tematiche del libro, elaborando una serie di strumenti pedagogici. I suoi studenti hanno redatto un copione teatrale, immaginando i dialoghi tra cinesi e portoghesi, tra messicani e spagnoli. In maggio, 2 anni fa, l'opera è stata rappresentata nel Teatro Comunale di Roubaix e ha vinto il premio consegnato dall'assessore municipale per l'educazione, lui stesso di origine nordafricana. Questa è la riflessione di un professore con studenti come voi tutti, ma anche questo dialogo che ho mantenuto con questo collega di Roubaix sulla possibilità anche di utilizzare queste ricerche in un piano molto più massivo e con gruppi molto più difficili. Dunque la riflessione parte di queste domande, ma anche di un tipo di, non so come dire in italiano, d'età del diagnostico della situazione. Contrariamente a quelli che pensano che ormai il presentismo ha dominato ovunque e che viviamo tipo di presente onnipotente, onnipresente, che priva i nostri contemporanei di ogni memoria, sto pensando a un storico molto importante francese, François Arthon, nella nozione di presentismo. Io Contrariamente a questo storico, credo che ci troviamo di fronte a un fluido di espressioni del passato. Alcune tradizioni, altre più note. Mi sembra che una riflessione sul contesto della storia e il suo ruolo attuale non possa ignorare la proliferazione dei passati e dei futuri che ci circondano. C'è ovviamente, parlo come francese, la memoria nazionale, regolarmente rinnovata dalle celebrazioni. L'ultima fu la prima guerra mondiale, la vittoria francese sui tedeschi. C'è anche molto forte questo passato che corrisponde alla memoria patrimoniale, cioè tutte le memorie legate ai beni culturali, ambientali, all'environnement, ai musei, cioè questa memoria patrimoniale che alimenta costantemente le industrie turistiche. C'è anche altro passato, il romanzo storico, che è ancora molto vivo e che è una forma che esiste almeno dall'Ottocento. Ci sono molto più moderne e diffuse le miniserie delle televisioni, e possiamo pensare a prodotti molto interessanti come Roma, come i Tudor, come i Borgia. Stavo il mese passato di aprile in New York e Princeton, e le due eventi importanti del mese di aprile era la nuova stagione di Game of Thrones e la nuova stagione di AD, Anno Domini, The Bible's Continues. Cioè vuol dire che la televisione, particolarmente queste miniserie, stanno fabbricando continuamente passati. I nuovi passati sono quelli che si presentano come passati globali, che cercano di sostituire il passato occidentale impostosi al resto del mondo. Chiamo nuovi passati non tanto queste miniserie o romanzo storico o memoria nazionale, ma altre forme che giustamente stanno occupando questo spazio che chiamano mondializzazione o globalizzazione. E vorrei insistere particolarmente su questi nuovi passaggi, perché noi nell'Accademia parliamo molto di storia globale, world history, connected history. Molte volte dimentichiamo che ci sono passaggi globali che adesso esistono e che questi passaggi globali sono interessanti perché sono abbastanza distinti dei passati che ci sono familiari. Esempio, ho visitato qui, mi ricordo, cinque anni fa, una mostra qui in Milano che voi tutti avete sicuramente visitato, chiamata I due imperi, l'Aquila e il Drago. È uno degli esempi per me importanti di questi nuovi passati, e vorrei con voi riflettere un po' su questi passati nuovi. Questa mostra nel 2010 dunque era un confronto tra l'impero romano e l'impero cinese, e potevamo leggere nel giornale, cito il giornale, la straordinaria mostra è dedicata a Roma e la Cina, due grandi imperi che non ebbero mai contatti diretti. Fianco a fianco il meglio delle due civiltà, avevano pari dimensioni, pari popolazione, burocrazia affini, sistemi militari efficienti. L'Aquila, Roma, il Drago, Cina, l'impero romano, l'impero cinese, così lontani eppure così vicini. Per la mia generazione abbiamo sempre il ricordo della Cina e di Cina, ma dell'occhio parlava di un'altra cosa, non di questo impero cinese di oggi. Possiamo leggere lo stesso discorso sulla mostra nel blog Mille Orienti. All'inizio della nostra era e nei due secoli successivi, circa metà dell'umanità si venne a trovare sotto il controllo dei due imperi ai poli opposti dell'Eurasia. Dopo il solito discorso sul gigantismo che riproduce il blog, di nuovo le somiglianze tra i due imperi e soprattutto l'idea che c'è una simultaneità tra Roma e la Pechino. Cito il blog, recitiamo meglio il periodo considerato, sono quasi 5 secoli, dal 221 a.C. con la fondazione dell'impero da parte della dinastia Celi, che ne gettò le basi, poi il consolidamento fino al 220 d.C. allora che termina la dinastia Han orientale, che definì la nozione di civiltà cinese e di impero. Il blog aggiunge, viene unificato l'immenso territorio cinese sotto, tra virgolette, il primo Augusto imperatore, e l'assonanza con Ottaviano Augusto appare evidente. Il blog precisa, dando all'imperatore cinese il ruolo di capo supremo con l'incarnazione del potere politico e religioso, anche per questo pensiamo ad Ottaviano Augusto. Cioè una mostra costruita su un confronto l'impero romano e una esaltazione dell'impero romano con l'esaltazione dell'impero cinese. Perché mi sembra interessante questo tipo di esempio? Perché cerco di capire il sorgimento dello storicismo europeo. E noi sappiamo che la storia moderna nasce qui, in Italia, nel 400, 500, a partire dalla costruzione dell'antichità. E lo stesso occorre quando stanno di fanno la storia degli indios delle Americhe. Bisogna sempre, quando si scrive la storia, costruire un passato. Non c'è passato senza antichità. Quindi questa mostra, quello che è interessante è che abbiamo un'antichità simile a Roma, cioè una visione globale della storia, ma questa volta una visione che introduce la parte cinese. E sempre il blog Mille Orienti, la Roma Caput Mundi, quella che nell'era della globalizzazione viene definita la fabbrica del mondo, ha esibito i reperti della sua civiltà millenaria con un giustificato orgoglio. E forse la Cina, al centro dell'universo, è molto di più del titolo della mostra, evoca un qualcosa di vivo, di attuale, ha il sapore di una sfida a se stessa, prima che agli altri, una sfida che crediamo già vinta. Un fenomeno come questa mostra per uno storico è molto importante, perché qui non abbiamo un articolo di rivista o un libro pubblicato dall'Accademia, abbiamo un tipo di spettacolo che è tutta una proposta già ideologica politica, con almeno per un francese una atmosfera un po' fascista dell'impero romano, una maniera di considerare che sì, l'impero romano non è una cosa unica nel mondo, ma che dopo l'impero romano o prima c'è l'impero cinese e che tutti e due possono offrire all'umanità il passato e il mondo globale. Cioè è un tipo di esempio che possiamo avrei potuto scegliere altri esempi, ma mi sembra interessante di parlare di questo esempio. Ieri pomeriggio abbiamo parlato molto di eurocentrismo o di italocentrismo o di francocentrismo, cioè delle critiche fatte da studi postmoderni, postcoloniali, ma sempre come si dice in francese, l'Accademia ha un treno di ritardo. Quando osserviamo la storia, le storie, le forme di storie che si diffondono, possiamo osservare altri fenomeni. E tra questi fenomeni è interessante l'apparizione di un sinocentrismo. E non unicamente nella mostra di Milano 5 anni fa, ma anche se pensiamo tutta la serie dei film storici diffusi dalla Cina negli ultimi 15-16 anni, film come La Tigre e il Dragon, The Hungry, come Io, come La Foresta dei Pugnali Volanti, cioè questa diffusione sistematica dei frammenti della storia di Cina, ideologicamente tutti orientati. E ovviamente per noi con un problema, perché questi film ci arrivano senza contesto, cioè noi non abbiamo ricevuto nell'università una formazione storica che ci permette di leggere questi film, dobbiamo accettare il discorso di questi film. Cioè, è anche interessante vedere come progressivamente c'è un'altra cosa nel panorama storiografico, e non forzatamente il panorama storiografico accademico, ma nelle maniere, nei presenti, nei passati che appariscono nel paesaggio della televisione, dei schermi, di spettacolo. Ultimo esempio collegato con la Cina, i giochi olimpici del 2008. Giochi olimpici è un momento nel quale un paese ha la possibilità di mostrare al resto del mondo e al resto del mondo, tutti, quasi tutti, possono avere questi spettacoli, la sua versione della storia. La spettacolo di Pechino nel 2008 è particolarmente interessante. È uno spettacolo organizzato dal regista Chao Yun, ma è anche un spettacolo ispirato dalle opere di un britannico, Gavin Menzies. Gavin Menzies ha pubblicato libri che l'Accademia ha rifiutato completamente, ma che si vendono ancora oggi in tutti gli aeroporti, due libri importanti. Un libro nel quale mostra che non è Colombo che ha scoperto l'America, ma i cinesi. Cioè, pensare che per noi moderni uno dei fondamenti della storia moderna è la scoperta dell'America. Cioè, ma più grave, anche grave per voi tutti, no? C'è un altro libro che racconta che sono arrivati a Pisa e dopo a Firenze cinesi che hanno portato a Firenze i geni, i primi fuochi della Rinascenza, cioè che il nascimento della Rinascenza fu ignato, acceso dai cinesi. Quello vuol dire che non soltanto noi europei abbiamo perso la scoperta dell'America, ma abbiamo anche perso i regimi dei tempi moderni. Quello ci fa ridere. Mi ci fa ridere perché siamo completamente chiusi nella carriera. Cioè, quanti colleghi nel Brasile, nel Messico, nell'Europa hanno acquistato e letto questi libri? E come sono americani, mi hanno chiesto, è vero che i cinesi hanno scoperto. Cioè, è interessante vedere che il discorso accademico sul passato, oggi, ormai è un discorso completamente isolato. Completamente staccato, non unicamente dei gesti popolari, ma anche di quello, perché quelli che acquistano i libri dei rimessi negli aeroporti sono quelli che circolano, sono le elite globalizzate. Cioè, mi sembra interessante vedere come è possibile finalmente, perché evidentemente tutto questo è falso, invece del vecchio eurocentrismo che dobbiamo tutti criticare, avere progressivamente un'altra visione del mondo, una visione questa volta centrata sulla Cina. Vorrei darvi altro esempio, sempre asiatico e sempre collegato con il passato italiano. Ho scelto questi esempi perché credo che e sono più forti per gli italiani che per il resto degli europei. Si tratta di un manga, questi piccoli libri giapponesi, manga con un titolo in latino, Termae Romae. Termae Romae è un manga da Giappone, l'autrice si chiama è la mangaka Yamazaki Mari. Questo libro, e sono 7-8 volumi, ho comprato la versione della FNAC in Parigi senza nessun problema. Ci sono venduti nel Giappone 5 milioni di esempi, copie di questa storia. Narra le avventure dell'architetto Lucius, che nella Roma di Adriano si occupa della progettazione di terre. Questi, Lucius, un giorno si ritroverà in un bagno pubblico del Giappone odierno, dopo essere stato aspirato da un buco sul fondo di una grossa vasca. Iniziano così una serie di trasferte del curioso architetto che farà la scuola tra le due terre per capire i segreti del Giappone tecnologico e applicarli alla vita di casa. Cioè è una storia che narra come le conquiste della Roma imperiale hanno come origine il Giappone contemporaneo. Ci fa sorridere e ridere, ma quella è la storia che esiste oggi, non è la storia che si insegna da noi. Cioè, mi ricordo, ho presentato questo libro l'anno scorso in Santiago de Chile, e durante il viaggio nel volo di Air France da Parigi c'era non il manga Termae Romae, ma c'era il film. Ho visto 2 ore di film che conta esattamente questa storia, cioè questa visione che è un'inversione totale della storia classica, accademica o positivista, cioè che la dinamica temporale è completamente invertita, cioè dal presente verso il passato. E l'altra inversione che c'è, cioè la civiltà Roma, la civiltà, il fondamento della civiltà occidentale, finalmente è un prodotto orientale dal Giappone contemporaneo. Tutto questo ci sembra e ci fa sorridere, non mi fa sorridere, perché noi storici o studenti dobbiamo capire che quella è la realtà del mondo, non sono i libri del Mulino, dei Naudi, dei Gallimati, nessuno legge più, e sono questa versione che ci porta. Anche importante per tutti questi che sono interessati con il post-colonial e post-modern study, il problema non è più l'eurocentrismo, il problema adesso è questo futuro. Non vuol dire che l'eurocentrismo è una cosa migliore del cinocentrismo, no, ovviamente. Ma non dobbiamo finalmente unicamente accettare una sostituzione dell'eurocentrismo con il cinocentrismo. Questi esempi, per me i manga sono molto importanti perché sono veicoli di stereotipi per i giovani, cioè sono capaci, e i manga giapponesi costantemente, non unicamente parlano della storia dell'impero romano, e se voi conoscete Termae Romae sapete che i dialoghi, tutti i dialoghi in Roma sono in latino, cioè c'è anche questa situazione molto strana che i nostri governi stanno distruggendo in latino e le vecchie lingue tradizionali d'Europa, e che un prodotto completamente popolare del Giappone, i dialoghi sono in latino. C'è una traduzione giapponese, ma gli autori hanno fatto, l'autrice ha fatto, ha lavorato con il professore specialista della storia di Roma, giapponese, ma conoscendo i dati, per introdurre tutti i dialoghi di Adriano con l'architetto a Roma in latino. È anche molto strano vedere come c'è la riapparizione del latino in un veicolo completamente popolare completamente orientale e che allo stesso tempo è una completa appropriazione dell'antico. Insisto molto su questa relazione della costruzione della storia, della costruzione del passato e del collegamento con l'antichità. Cioè è interessante vedere oggi come possiamo vedere nuove forme di storie globali, ma che hanno bisogno di appoggiarsi su una forma di antichità. Qui è un rapporto strano all'antichità, cioè è l'antichità che è il prodotto finalmente del Giappone tecnologico. Ma nel caso della mostra di Milano abbiamo questo tipo di mediciato tra l'impero romano e l'impero cinese. Altri casi, non ho il tempo, esiste il libro, e se voi potete ancora leggere il francese potrete incontrare altri esempi. Ovviamente quando noi parliamo dei passati moltiplicati c'è anche il videogames, cioè il mondo virtuale, cioè la possibilità per ognuno, invece di passare il tempo leggendo un libro di storia su Roma, di costruire un impero romano o greco o siriano, di costruire una civilizzazione e di distruggere questi. Cioè basta avere le mezzi tecnologici, e oggi tutti i uomini hanno questi mezzi, per entrare nella storia in una maniera molto particolare e molto forte. Cioè non è unicamente lo spettacolo, le immagini come Roma, come le miniserie, è la possibilità proprio della persona di agire nel passato, di inventare il passato o di distruggere il passato. Ultima osservazione su questi passati, e per me insisto molto su questa dimensione, perché se vogliamo per rispondere alla domanda che tipo di storia, che storia fare oggi, ovviamente è importante sapere dove ci troviamo, che tipo di paese. Possiamo, noi, dall'università, dall'accademia, anche studenti, considerare che manga, miniserie, che finalmente il mondo virtuale, videogame, tutto questo sono delle cose popolari, finalmente, che sempre abbiamo avuto cultura di massa e che le favole di questa immaginazione ha sempre esistito. Quello che è interessante è che possiamo osservare, pensando in Milano, basta visitare la Scala di Milano, vedere che nella cultura più elitista che esiste oggi, quella dell'opera, i registi giocano continuamente con i tempi, con i periodi, e continuamente inventano delle rappresentazioni del passato che non niente da vedere con una visione positiva, stavo classica. Quello è per me molto importante, cioè questa invasione dei passati che hanno tutte le forme sono anche oggi presenti in queste, nel palcoscenico. Un esempio, Trovatore di Verdi. Come voi sapete abbiamo un romanzo spagnolo della prima metà dell'Ottocento. Verdi fa lo sforzo di imparare un po' di spagnolo per fare tradurre il romanzo e concepire il Trovatore. Dmitri Tcherniakov, 3 anni fa, nel Teatro della Monnaie di Bruxelles, presenta Trovatore. Non è più Trovatore, è una storia dell'epoca medievale completamente pazza. Un mondo esotico, idelico. Nella versione di Tcherniakov, del regista, ci troviamo un tipo di salone come di Freud, che è fine dell'Ottocento, primi anni del Novecento, e l'aspetto medievale completamente modificato. Abbiamo la proiezione dell'opera di Verdi in un'epoca dopo Verdi, in un contesto che è di psicoanalisi, e la tragedia o ridicola del trovatore diventa un tipo di psicoterapia di gruppo nella interpretazione di Cervo. Possiamo moltiplicare gli esempi nel caso dell'opera, anche del teatro, di questi giochi con le periodi e con il tempo. Dunque è per me anche importante non dimenticare che questa moltiplicazione, il limite dei passaggi, è parte non unicamente delle cosiddette culture di massa, ma anche fa parte della forma bene di per noi tutti più elitista, che è la cultura operistica. Bon, cerchiamo di passare a una dimensione più concreta. Dunque, rispondere a l'histoire pourquoi faire? Ho voluto nel libro un esempio, due esempi, a partire dell'epoca che conosco un po', che è la early modern history, 500-600, per vedere come certi momenti del passato, particolarmente del passato italiano e iberico, ci aiutano finalmente a fare al passato delle domande che hanno un significato oggi per noi tutti, e non unicamente nell'Accademia, ma anche nei licei. Credo che per me è molto difficile dire queste cose, perché l'evoluzione degli studi storici oggi nella Francia è l'abbandono per completo dell'epoca medievale, del Rinascimento o del 700-800. No? Credo che questa epoca, l'epoca cosiddetta delle grandi scoperte, cioè il 500, è un'epoca fondamentale per riflettere su distinti punti. La costruzione dell'Europa. L'Europa non esiste nel 500, c'è una cristianità occidentale. L'Europa non esiste. L'Europa esiste a partire dal momento in cui si replica nell'America. In questo confronto nasce l'Europa. Anche per riflettere su la nozione di modernità. La modernità classica, come voi sapete, è un prodotto inizialmente, ma soltanto inizialmente, italiano. Dopo la modernità viaggia, passa alla Francia del 500, di Château de la Loire, Montaigne, dopo arriva Olanda, Inghilterra e nella Germania nell'Ottocento. Cioè c'è una genealogia classica insegnata in tutte le parti d'Europa e del resto del mondo, in cui la modernità è un prodotto strettamente locale, autoctono europeo. Credo che possiamo esplorare l'idea di modernità pensando che la modernità è piuttosto il frutto dell'incontro e degli scontri tra l'Europa e il resto del mondo, cioè in queste connessioni che possono essere beneficiate, che possono essere anche dei genosi. Possiamo osservare la partizione di questa modernità, cioè pensando a un tipo di modernità molto più globale. Come fare per seguire queste piste? Credo che noi storici possiamo ascoltare un poco i filosofi, e noi francesi possiamo ascoltare un poco gli altri europei. Un pensiero fondamentale per questo problema della globalità è Kashmir. Kashmir scrive il nome della terra, e Kashmir che introduce la parola globale, cioè una critica di globale, di globalità, dove cominciare con Tauschen. Cito in inglese: Global Linear Thinking, which represents a chapter in the development of spatial consciousness, began with the discovery of a new world and the start of a modern age, and kept space with the development of geographical maps on the globe itself. È interessante vedere come un tedesco, tutta la tradizione tedesca, fa la connessione tra global e le grandi scoperte. E Schmidt aggiunge: la nuova immagine globale derivante dalla circumnavigazione della Terra e dalle grandi scoperte del 400 e del 500 richiedeva la costituzione del nuovo ordine spaziale. Sono due fragmenti di un altro tedesco importante, e ovviamente Soderlund. Ho visto nelle librerie che subito ci sono molte più traduzioni di Soderlund, un filosofo che ha fatto una storia della globalizzazione da Platone fino ad oggi. E Sloterdijk è un filosofo, non è uno storico, ma Sloterdijk, malgrado il fatto di essere tedesco, dà tutta l'importanza a questa protezione dell'Europa sul mondo. E ci sono alcuni punti proposti di Sloterdijk che mi sembrano importanti per pensare di altra maniera che nostro passato. Finalmente, la nozione di mobilizzazione infinita, cioè a partire dal 500 le cose, le idee, la gente, gli uomini, le donne circolano dappertutto, e questa mobilizzazione infinita continua oggi, ogni volta più rapida, più veloce, più intensiva. Sloterdijk ci propone un'altra cosa poco studiata dagli storici. Noi storici parliamo molto globale, significazione, significato del globale. Sloterdijk spiega cosa è locale, che vuol dire locale, quando sorge locale. E non ho il tempo di ripetere le analisi di Sloterdijk, ma è ovvio che locale è una nozione completamente collegata a globale. Non possiamo parlare del mondo globale se introdurre la nozione dello spazio globale. E prima di questo mondo globale non c'è il mondo globale, ci sono altre cose. Sloterdijk insiste anche su questa idea, la convinzione che fatalmente la condizione che hanno gli europei, il resto della Terra, era in attesa di essere scoperto il fatto proprio dagli europei. Per Sloterdijk, la globalizzazione terrestre è un fatto europeo. Cioè, pensare la Terra come un globo fisico vuol dire un globo che può essere esplorato in tutte le direzioni, ma soprattutto esplorato da noi, dagli europei. Cioè, nello stesso tempo, c'è la capacità di pensare la Terra come un globo, ma un globo che è una possessione. Ci sono i territori già colonizzati e il resto. Si trova in attesa di essere scoperto e colonizzato. Sloterdijk ci dà un esempio molto, per me, molto parlante. Sostiene che la rivoluzione magellanica, che per la prima volta fece circolare il denaro, gli investimenti, perché questi navi di Magellano e denaro, la prima volta fece circolare il denaro e gli investimenti intorno al globo, che questa rivoluzione magellanica è molto più importante della rivoluzione di Copernico, che proclamava la rotazione della Terra. Cioè non sono due rivoluzioni equivalenti. La prima volta che degli europei prendono la decisione di guastare dei soldi per filtrare il commercio con una parte completamente sconosciuta del globo, l'Europa, dall'altra parte del mondo questo gesto inaugurale è la guerra di pace. Cioè l'idea è che il denaro può girare torna al loro e la realizzazione sono unicamente un barco che ritorna alla Spagna, ma questo barco unico che ritorna alla Spagna ritorna con un profitto gigantesco. Cioè l'importanza, la visione è stata data anche una visione critica. Cioè questa globalizzazione, prima di tutto, è la globalizzazione del denaro. E spiega Sotadai che cosa la globalizzazione, la contrazione della terra sotto gli effetti del denaro in tutte le sue manifestazioni. La contrazione della terra sotto gli effetti del denaro. Aggiunge Sotadai che il mondo è diventato un'immagine di fonti di denaro che scorrono dal futuro verso il presente. Sono alcune piste per farci capire come quello che noi viviamo oggi ha molto più da vedere con questi eventi dell'Oceano Pacifico, dell'Atlantico, delle Americhe, che finalmente le storie nazionali o la storia strettamente continentale dell'Europa. Ultimo tedesco, Heidegger. Heidegger, un saggio molto conosciuto che si chiama in italiano Sentieri interrotti, credo, spiega che il tratto fondamentale, il processo fondamentale del mondo moderno è la conquista del mondo risolto in immagini. Cioè, quello che spiega Heidegger è quello che succede a oggi. E Heidegger non è uno storico, ma è capace di darci questa pista, no? Cioè il fatto che quando si realizza questa globalizzazione terrestre, cioè la possibilità fisica di arrivare a qualche punto del mondo con i navi europei, al mismo tempo quello che è importante per gli europei sono le mappe, sono le carte geografiche, sono la rappresentazione del mondo. E è nel 500 che gli europei inventano la maniera di vedere il globo. E oggi qui quello è una cosa molto lontana di giapponese del 600, quella visione giapponese del mondo e la visione europea. Quello è esattamente quello che Heidegger chiama la conquista del mondo. È risolto in immagine. C'è un altro fenomeno che anche fa parte di queste trasformazioni del Cinquecento. Ho parlato un po' ieri pomeriggio di questa trasformazione, cioè gli europei sono capaci di trasformare il mondo in immagini, e sono queste immagini che sono finalmente strumenti di dominazione. Su queste carte geografiche gli europei decidono come condividere il mondo. Gli europei decidono che parte devono colonizzare, dove sono le ricchezze. Quello è parte giustamente di questa globalizzazione europea. L'altra parte della globalizzazione è la conquista del mondo attraverso lo storicismo. Cioè il fatto dell'imposizione al resto del mondo della nostra visione del passato. Cioè, se la storia moderna è un prodotto dell'Italia del 400, nel 500 che occorre le autorità spagnole, la Chiesa cattolica decide, scrive la storia dei popoli che non sono europei, la storia degli indios, e introdurre nella memoria del passato, nella nostra visione del passato, nella nostra concezione del passato, tutte queste civiltà, civilizzazioni che non sono europee. Nell'Ottocento gli inglesi fanno lo stesso nella India, obbligano le elite della India a scrivere la storia del loro paese di accordo con il canone della storia dell'Ottocento o del Settecento, possiamo anche osservare il Giappone della seconda metà dell'Ottocento, quando i Meiji acquistano un storico tedesco per fare la storia del Giappone secondo i criteri, i canoni di Leopoldo von Hanke. E possiamo continuare con la Cina. Il trionfo dello storicismo europeo è il caso della Cina marxista, nel quale è il marxismo, storico, che occupa il spazio che poteva prima occupare la ricca storiografia della Cina. Dunque è un fenomeno di conquista progressiva del planeta fino a oggi, che fa che tutti abbiamo la stessa cronologia e che ci sembra tutti completamente naturale di fare la storia come faceva la storia Leonardo Bruni, Machiavelli o Guicciardi. Ovviamente è una delle forme di colonizzazione più insidiose, ma anche più intesa. Cioè, perché questa importanza di questi secoli del Rinascimento, del 600, del 400? Perché possiamo osservare gli inizi di tutti questi processi. La trasformazione del mondo in immagine. E noi vediamo ogni giorno con i nostri figli questa trasformazione della realtà in immagine, perché c'è questa diffusione che comincia del storicismo, cioè obbligare gli altri a vedere la realtà attraverso la prospettiva storica. Non dico che è male, no? Non è il nostro problema, soltanto che è importante avere coscienza di questo fenomeno, del fatto di tutte queste civiltà, gli indios delle Americhe prima, dopo gli africani, gli asiatici, di questa rete di interpretazione, questa maniera di vedere la realtà attraverso tre categorie che sono passato, presente. Ovviamente non sono categorie universali, siamo noi europei che abbiamo trasformato economicamente e militarmente queste categorie e di categorie universali. Bon. Dunque, pensare in una storia, la storia del 500, che impone quello che Baudel chiamava de longue durée. Cioè la storia comincia con l'Olocausto, Auschwitz o la Seconda Guerra Mondiale. La storia che ci interessa oggi comincia molto bene. Anche questa storia per me è importante perché non è una storia nazionale. Cioè la storia iberica coinvolge gli spagnoli, i portoghesi, coinvolge gli italiani, ma anche la gente dei Paesi Bassi, gli olandesi, prima della rivoluzione Olanda contro il potere spagnolo. Cioè è una maniera di introdurre nella visione del passato una dimensione completamente naturale, cioè imposta dalla realtà del passato, una dimensione europea. E questa globalità ci obbliga anche a costantemente insistere sulle connessioni che possono esistere entro uno spazio locale e una certa globalità. Questa globalità cambia con gli anni, non è la stessa. La globalità iberica è una globalità in gran parte sostenuta dal cristianesimo, dal cattolicesimo e dalla parte religiosa molto forte. La globalità industriale della rivoluzione dell'Ottocento è tutta altra cosa. Ma già abbiamo questa dimensione, questa quello che fa la differenza tra world history o storia del mondo e storia globale, cioè pensare, utilizzando le parole di Sandra Sopamagnano, di quali historias, ma non tanto le histories, ma le connessioni, le relazioni. E ho fatto un caso che ho spiegato rapidamente nel libro. Io insegno in Brasile e l'anno scorso con i miei studenti di Belém do Pará e l'Amazonia ho fatto un corso di fotografia e la domanda era come scrivere la storia globale dell'Amazonia. Primo perché per rispondere alla prima domanda, alla prima ragione, ovviamente raccontare la storia europea o la storia del Messico a brasiliani dell'Amazonia non è molto difficile, quindi è tutto normale. Ma partire dalla realtà amazonica e contestualizzare continuamente questa realtà nei distinti contesti globali può essere interessante per fare nello stesso tempo una storia locale con radici solidi localmente e una maniera di aprirsi sul resto del mondo. Prendo il caso amazonico che forse non è così conosciuto da voi. L'Amazonia moderna sorge con i racconti di uno spagnolo Oviedo nella metà del Cinquecento. Questi racconti è una lettera che invia Oviedo a Venezia. Cioè, e l'immagine il progetto europeo sull'Amazonia è una informazione che parte dall'Amazonia, che arriva in Santo Domingo e che termina in Venezia. Cioè, e immediatamente con gli studenti al Brasile bisogna spiegare che succede in questa epoca in Santo Domingo, perché Santo Domingo è così interessato dall'Amazonia. Chi è Pietro Tempo? Che cosa è Venezia? Perché Venezia vuole avere le specie, i ricchezze dell'Amazonia, quando Venezia ha tutti i problemi con i portoghesi? E quello che è questo passaggio della storia locale alla storia locale. Finale del 600, nell'Amazonia, che noi immaginiamo attraverso le discorso un luogo completamente isolato, e quello è una favola antropologica. A finale del 500 arrivano nell'Amazonia gli olandesi. Arrivano nell'Amazonia irlandesi, inglesi e francesi. E così quasi arrivano i fiorentini. Il duca di Toscana muore prima di pagare le spese della spedizione. Cioè che l'Amazonia del finale del 500, dei primi anni del 600, è una zona alla quale i popoli indigeni sono in contatti diretti, privilegiati, con non unicamente spagnoli e portoghesi, ma anche con i francesi, inglesi e francesi. In questa situazione, a conoscere degli episodi abbastanza drammatici, perché la guerra dei 30 anni, che noi sempre vediamo come un episodio tipicamente europeo, centro-europeo o francese o spagnolo, la guerra di 30 anni ha delle conseguenze forti sulla presenza degli europei protestanti nell'Amazonia. Un'altra volta, questa storia globale ci obbliga da Belém a viaggiare fino a Praga, fino ai centri della guerra dei 30 anni, per capire come la guerra dei 30 anni è la prima guerra mondiale, con dei conflitti che sono i conflitti nell'Amazonia, ma anche nel Caribe e anche nel Brasile. Ho visto, la mia collega mi ha mostrato il libro sulla guerra dei 30 anni che ha pubblicato il Mulino. Come sempre non si parla di quello che è successo nell'Africa, un episodio importante della guerra dei 30 anni è la riconquista di Angola, fatta dai portoghesi del Rio de Janeiro, che hanno espulso i olandesi che si trovano nell'Angola. ma come quello è una storia africana per gli storici europei, non esiste. E anche questa, posso dare altri esempi, quello potrebbe essere giustamente questo tipo di storia, storia globale, storia globale, storia locale. E per terminare sulla, su questo liceo di Ope, perché questa doppia storia di conquista del Messico e conquista, fallimento della conquista della Cina ha funzionato così bene? I due gruppi di alunni erano studenti particolarmente difficili, cioè hanno cercato di fare questa esperienza perché non c'erano altri mezzi per, non unicamente per insegnare la storia, ma per insegnare una cosa, qualcosa, no? Perché questi studenti, questi giovani hanno passato un anno finalmente con quattro gruppi: cinesi, aztechi, portoghesi, spagnoli. Come hanno scritto dei dialoghi per questo teatro, no? Hanno ricercato immagini, inventato costumi e si sono identificati con i quattro gruppi. Questa doppia storia è interessante perché era l'opportunità di parlare della colonizzazione sin toccare direttamente la colonizzazione francese, che è una cosa completamente impossibile nel contesto attuale, ma era la possibilità di parlare della colonizzazione, era la possibilità di parlare del ruolo della religione nel processo di colonizzazione, di decolonizzazione. Come sapete, la religione cattolica è molto importante per la parte spagnola, che i conquistatori hanno distrutto le loro indios e che parte della colonizzazione e cristianizzazione. Ma dall'altra parte la realtà è tutt'altra, cioè i portoghesi, per essere ricevuti dai cinesi, hanno dovuto accettare essere considerati come musulmani. E negli archivi cinesi i nomi dei portoghesi sono nomi musulmani, cioè nell'altra parte del mondo. Questo rifiuto assoluto dell'Islam si è trasformato in una necessità assoluta per i portoghesi. I cinesi non sapevano cosa erano i portoghesi, si sono reso conto che erano monoteisti. E per i cinesi i monoteisti sono musulmani e dunque i portoghesi erano musulmani, dovevano essere musulmani. E quando i portoghesi hanno capito che era l'unica soluzione, hanno assunto e questi nomi musulmani. Cioè in questo contesto anche c'è la civilization, come dicevo, ma anche tutti i problemi di litigiato, della relazione con l'Islam, perché l'Islam nella Cina è una dimensione completamente integrata in questa epoca. Quando questi portoghesi arrivano in Canton, il posto che si apre per i portoghesi è, come si dice, la moschea di Canton. Perché Canton, dal VIII secolo, ha una moschea, cioè è anche un'altra visione della possibilità dell'integrazione dell'Islam in una grande civiltà. Ci sono anche dei dettagli più particolari, no? Una delle ragazze doveva fare la Malinche. La Malinche è l'indigena messicana che ha aiutato Cortés, no? Come traduttrice tra un spagnolo che parlava maya e Cortés, no? Cioè è la malamute, cioè la donna che è responsabile finalmente, come tutte le donne, della catastrofe della civilizzazione. No, quello che è interessante è che la ragazza era musulmana e non volevo presentarsi sul palcoscenico senza. Dunque hanno passato ore per convincere che questa Malinche indigena non poteva, perché non era la stessa religione. Cioè sono una quantità di dettagli completamente concreti, okay? Che dimostrano che quello non è la mia realizzazione, cioè sono colleghi che hanno passato molti signori, sono loro che hanno fatto tutto il lavoro. Come è possibile utilizzare questi momenti della storia abbastanza lontani, remoti, cioè che si sembrano veloci, che hanno permesso finalmente di discutere molte questioni e anche di dimostrare in maniera completamente concreta una cosa molto difficile, la complessità della storia del passato. Cioè, i bianchi non sono sempre gli vincitori, sono i vincitori nel caso dell'Asia, i bianchi sono i vinti. I civilizzati non sono sempre i bianchi. Nel caso della Cina, i più civilizzati sono i cinesi. E quello credo che pedagogicamente è molto importante. Cioè, non attraverso un discorso, ma attraverso una pratica, no? E l'utilizzazione di tutti i ricorsi per trovare le immagini, i riferimenti, no? Lavorare anche sul vocabolario, no? E su hanno voluto rappresentare un sacrificio umano. È importante per gli umani trovarsi frente alla necessità non di pensare la religione cattolica o cristiana, ma un'altra religione, una religione che pratica il sacrificio umano. Sapete che quelli che praticano il sacrificio umano sono le vittime della colonizzazione europea. Perciò parlo di questa complessità, no? Il fatto è che durante settimane devono affrontare situazioni concrete, storiche, che forse di aiutare definire la sua propria identità nel futuro. Ci sono anche moltissime cose nel libro e credo di aver parlato già troppo. Vi ringrazio la sua attenzione. Grazie. Se siete d'accordo, io aprirei la discussione tenendo conto dei temi che ci siamo dati. E come vi ho detto, le strade sono due. Io ho in mente una piccola scaletta che però è un po' scolastica, nel senso legata al libro, oppure invece c'è l'intervento di chi vuole rompere il ghiaccio. Ditemi quale strada seguire e io la pratico. La scolastica. Allora Roberta ti tocca. Comunque. E quindi il libro si apre con questa fotografia di una città deindustrializzata e siamo qui in un centro che ha una storia analoga alla nostra università, non voglio fare il centone di Roberta, è costruita in un'area di deindustrializzazione, no? Venite qua. Così? Sì, faccio itinerante. Sì, una delle ragioni per cui Maria mi ha invitato oggi è perché, come ci dicevamo prima in studio, sono uno storico economico, mi occupo di business history, ma sono un oralista contemporaneamente. Sono laureata in storia contemporanea, questo non significa che ho studiato solo quella, ma certamente lì è il focus della mia attenzione. E in questo momento sto studiando il processo di deindustrializzazione a Sesto San Giovanni, anzi in realtà lo faccio con un gruppo di ricerca, e tra gli esiti di questa ricerca c'è un documentario, e quindi qui ricorrono un po' di temi. E quindi, poiché il libro si apre con la rievocazione di quello spettacolo tenuto dagli studenti del liceo di Stato, questo è un libro che mi ha colpito per come si apre e per come si chiude, forse ancora di più di come lo avrebbe comunque fatto. Primo per le assonanze tra un posto come Roubaix e un posto come Sesto San Giovanni. Sesto San Giovanni è stata uno dei 5 cuori industrializzati d'Italia per tutto il Novecento, ha una dinamica demografica non dissimile a quella di Lubecchio, più o meno la stessa dimensione, arriva quasi a 120.000 abitanti e dopo gli anni 70 ne perde più del 20%, attualmente ha 80.000 abitanti. Non ha lo stesso noticiato, perché l'Italia non ha lo stesso noticiato della Francia, ha politiche di accoglienza molto diverse. Ha quindi una storia industriale altrettanto forte, anche se i settori di insediamento qui sono stati diversi, sono stati la grande meccanica e l'acciaio, quindi le dinamiche del capitalismo che hanno interessato Sesto San Giovanni sono state parzialmente diverse da quelle dei tessili di Rubin. E ha una storia politica altrettanto intensa. Mi ha colpito trovare, cosa che ignoravo, che l'appellativo di Rubin era la Mecca del socialismo rivoluzionario. L'appellativo storico di Sesto San Giovanni è stato ed è tuttora la Stalingrado d'Italia. Per il ruolo di Sesto San Giovanni durante gli anni 43-45, ma secondo me più significativamente perché il tasso di sindacalizzazione degli operai in questo posto, che arrivavano a essere più del 40% della popolazione, era di oltre il 90%. Questa era la Stalingrado d'Italia. Dagli anni 80 Sesto San Giovanni ha perso la sua industrializzazione, ha perso anche la sua identità operaia, la sua identità sociale, e noi stiamo studiando esattamente questo passaggio. Il libro si chiude con un'affermazione che secondo me è molto impegnativa, e che dice: trovare le risposte all'incontro con l'altro oggi esige molto di più che non solo lavoro di archivio, ma un lavoro di ricerca aperto a tutti i sentieri della creazione contemporanea nell'ambito della rappresentazione, arte, cinema, coreografia, teatro, fotografia, musica. È quello che accade nei processi di reindustrializzazione. Sono enormemente rappresentati nel mondo contemporaneo in tutto questo ventaglio, nella fotografia, certamente nel cinema, nelle serie televisive, su cui insisto sempre, nella graphic novel, nella pubblicità, nel teatro. Un teatro di parola che in Italia ha una sua tradizione. Dicevo, stiamo producendo un documentario, forse non ci avremmo pensato spontaneamente se non fosse che la nostra ricerca ha un finanziamento pubblico, e questo finanziamento è condizionato a un esito della ricerca che non riguardi solo il pubblico accademico. Questa è una forzatura, almeno per me, forse probabilmente meno per i miei collaboratori che sono più giovani, è una forzatura delle modalità di fare storia, e quindi poi l'apertura di una serie di domande che nel mio caso non hanno ancora trovato risposte. Come si può parlare, come si fa storia attraverso l'immagine, e come si incorporano immagini che aiutano a descrivere altre immagini meglio di come fa la parola. Però, come ci siamo detti poco fa, per commentare il suo libro, io in realtà mi serve di un'altra lettura che ho fatto casualmente, in modo contiguo. Mi riferisco a questo volumetto qua, che ha un titolo però impegnativo, The History Manifesto. È un volume scritto da due storici americani di due generazioni, una storica, Joe Guldi, e uno storico, David Armitage, che so che Maria conosce bene, di due generazioni diverse, che pongono delle domande analoghe a quelle che sono contenute qua, in Visuale per Coaffaire, e che costringono le persone come me che fanno storia oggi, anche se, anche forse soprattutto su questi temi, ma magari soprattutto va tolto, a confrontarsi. Una delle cose che mi ha colpito di più sono i dati di partenza da cui partono questi due storici. Ovviamente il titolo di History Manifesto riecheggia Marx ed Engels, e esattamente hanno lo stesso obiettivo, cioè un appello alle armi degli storici, e quindi la scrittura di un progetto per la storia oggi. Per dare sostanza a questo appello sottopongono due dati che io ho trovato molto interessanti. Primo, una ricerca del 2013 della Oxford Martin Commission for Future Generations, che studia, fa un'analisi quantitativa sui testi delle negoziazioni internazionali tra il 1976 e gli anni 2000, in cui viene rilevato che il riferimento al breve periodo nel ragionare intorno ad argomenti globali appare con gli anni 80, esplode negli anni 90, anzi nel quadriennio 89-92. E con lei ha citato Clash of Civilization, io non ricordo mai se l'articolo di Foreign Affairs del 92, il libro del 93, o... quindi short-termismo che appare con gli anni 90 e che vediamo rappresentato graficamente. Noi abbiamo una curvatura che cambia verso l'alto tra il 89 e il 92. Secondo dato, una ricerca americana recente ha studiato la distribuzione degli argomenti delle tesi del dottorato in storia negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti adottano un modello di dottorato simile a quello tedesco, precocemente. Quindi questa ricerca copre tutto il Novecento, cioè dal 1900 ai giorni nostri. E quello che emerge da questo dato è che il numero di anni considerati in media dagli argomenti di tesi era in media 75 anni nel 1900, scende a meno di 30 nel 1970 e si contrae ancora più rapidamente da lì in avanti. Non si studia mediamente nulla di più lungo della spanna biologica dell'esistenza individuale, ma in realtà si arriva a studiare spanne temporali tra i 5 e i meno di 50 anni. Che cos'è richiesto agli storici? Padronanza degli archivi, possibilmente originalità nella scoperta documentaria, ovviamente dominio della bibliografia, ma di una bibliografia che esplode, e una sorta di imperativo alla ricostruzione del dettaglio. Allora, questo quadro, dato da Goody e Armitage, mi colpisce perché io sono qui dentro, io mi sono formata qui, in questo, non in università buona come quella americana, ma ho studiato a Bologna negli anni 80 e ho studiato a Milano, ho fatto il mio dottorato a Milano nei primi anni 90. Quindi ho impostato il mio lavoro di storico, diciamo, prima o inconsapevolmente prima delle grandi svolte metodologiche degli anni 70 in avanti. Quindi concentrazione sugli archivi, sperimentazione di approcci che mutuano, occhieggiano le altre scienze sociali, esattamente quello che ho fatto nella mia tesi di dottorato. Io ho studiato un signore che era un ebreo tedesco, nato a Danzica, che arriva in Italia per curare un'affezione polmonare, va a lavorare in una banca di Genova e poi fonda quella che è la più importante, una delle due più importanti banche che sono determinanti per l'industrializzazione italiana. Tra l'altro sono determinanti per l'industrializzazione di Sesto San Giovanni. E ho studiato la formazione di questo signore tra gli anni 80 dell'Ottocento e i primissimi del Novecento. Poi lui viene deflorestrato per le sue origini tedesche nel 1915. Quindi io ho partecipato di questo restringimento dell'arco temporale della nostra professione. Gli storici americani situa la microstoria italiana tra i propulsori di questo restringimento del campo, però lo fa dando un'idea un poco, forse caricaturale, semplificata, così semplificata la microstoria italiana che io non mi ci ritrovo. Io credo che la microstoria sia un modo di leggere la storia che parte da una situazione, e allora ancora adesso quando studio Sesto San Giovanni cerco di partire da una situazione precisa, ma aprendo delle domande generali, aprendo delle domande interessanti. L'attenzione della microstoria è sul dettaglio, ma non è detto che la scala della risposta alla domanda sia sullo stesso dettaglio, che la scala spaziale della risposta sia sulla stessa scala spaziale della domanda, e anche la scala temporale, ovviamente. Un'altra cosa io direi a questi due signori è che tra i libri che hanno avuto più successo negli ultimi 30 anni, a me pare che nel mercato editoriale della storia mondiale ci sono dei testi di microstoria, tutti conoscono Il formaggio dei vermi di Carlo Ginzburg, tutti conoscono Il ritorno di Martin Guerra anche per il film che ne è stato ricavato. Quindi ecco l'immagine, il passato tradotto nelle immagini. Cos'è che dicono Boldi e Damicio? Dov'è che sta il loro messaggio? Attenzione, perché il ciclo sta cambiando di nuovo. Dagli anni zero in avanti la spanna temporale coperta dagli storici si sta riallungando, e qui il suo libro, e loro dicono qual è il grimaldello di questo riallungamento della spanna temporale: i big data. E attenzione che i big data non sono solo dati o informazioni strutturati, ma sono qualcosa di molto più grande, sono dati anche non strutturati, per cui immagini, quello che ricaviamo dai social network e quello che ricaviamo per esempio dalle coordinate GPS. Una cosa davvero emozionante che si può fare per capire Sesto San Giovanni è andare su Google Earth, posizionarsi su Sesto San Giovanni, girare il cursore della barra temporale che sta in alto, andare all'indietro di 20 anni e vedere come cambia questo territorio qui che abbiamo fuori. Noi siamo fisicamente adesso dove c'era un'industria di grande meccanica fino al 1984. Quindi ecco i messaggi di questo libro. Appello a che gli storici si riapproprino dell'influenza politica, che facciano un discorso che riprenda influenza politica. La mia domanda è come? Seconda loro messaggio, questa riappropriazione dell'influenza politica passa solo attraverso il recupero della lunga durata. Terzo, questo deep time, come loro lo chiamano, lo si afferra solo se gli storici saranno in grado di abbracciare le nuove tecnologie. I big data e anche le tecnologie, le tecnicalità statistiche di lettura non lineare di questi big data, cosa che richiederebbe una formazione radicalmente diversa da mia, come se io dovessi tornare indietro, invidio molto i nostri studenti di dottorato. Quindi le loro domande sono: big is back, è così? Beh, è anche in qualche modo la mia. Ci sono delle questioni del mondo contemporaneo come cambiamento climatico, governance globale, diseguaglianze planetarie che sembrano dirci di sì. Il punto è che i due grandi bestseller internazionali che hanno affrontato gli ultimi dei due punti, governance mondiale e diseguaglianza internazionale, quelli, lei l'ha detto prima, che legge l'elite mondiale oggi, che trova negli aeroporti, parlo del libro di Thomas Piketty, Il capitale nel XX secolo, e parlo di un libro clamorosamente affascinante che è quello di Acemoglu e Robinson, Perché le nazioni falliscono. Sono due libri che non sono scritti da degli storici, che affrontano i temi di oggi in una prospettiva storica che però non è la nostra. Quindi noi abbiamo una cittadella della storiografia che si è rattrappita e che non prende parola nemmeno laddove dovrebbe, potrebbe. Però com'è che si fa ad accogliere l'appello di Boldi e Armitage? Go public, dicono gli storici, perché io personalmente non lo so. E l'altra domanda che ho è: ma il tempo è sempre il lungo periodo che va recuperato nella ricerca storica, nel dare risposta alle domande della storiografia, o il periodo più proprio a quella domanda? Non so se è chiara. E poi ancora, i nuovi media esercitano un'influenza clamorosa sulla storia, lei ha fatto un ritratto. Ma questo spinge anche a concentrarsi sulla contemporaneità. Credo di aver finito. Grazie mille per la presentazione di prima. Mi appello al vostro suggerimento per questa cosa. Allora, può essere che per il tempo che abbiamo a disposizione, se Sergio è d'accordo, tutti dicono lavoro e poi tu rispondi collettivamente, perché se facciamo risposte, facciamo una o due giorni, usciamo di qui domani. Io sono molto contenta, ma non so, facciamo, effettivamente sarebbe il caso di trasformarmi in qualcosa di più ampio sul piano del tempo a disposizione. Allora, seguendo il mio schemino, io chiederei, chiedo a loro di scegliere con quale scansione a Bettina, Letizia e Maria di dirci nella prospettiva che loro ritengono, appunto, invece darci idea di quale storia, quali storie, quali rapporti con la storia di questi grandi mondi con cui nella prospettiva nostra da studiosi europei l'Europa si è relazionata, ma che sono grandi porzioni dell'esperienza umana rispetto ai quali noi abbiamo un accesso appunto di riflesso attraverso immagini. A voi la scansione, se è Bettina e io non sono capace di accendere il computer, vieni tu a sciogliere. Comincio io cronologicamente, perché le riflessioni che mi ha ispirato leggere questo lavoro, sentire questa presentazione, riguardano proprio lo stato della mia disciplina, che è lo studio del mondo arabo-islamico premoderno, sia come disciplina in sé, sia nel rapporto con altre discipline, sia infine nel rapporto con, come dire, il mondo esterno. E vorrei partire da quest'ultimo punto perché qualche mese fa un collega americano che si chiama Paul Cobb si chiedeva una cosa simile in un post che ha scritto sul blog della Oxford University Press. Il post si intitola "Is Islamic History in Danger of Becoming Irrelevant?" La storia islamica sta rischiando di diventare insignificante. Vediamo giovani, anche europei, anche occidentali, che partono per la Siria, reclutati spesso attraverso i social media, e social media da un'organizzazione che usa un'organizzazione che si definisce Stato Islamico e che usa magistralmente diversi strumenti di comunicazione, appunto i social media da una parte, ma dall'altra un'immagine direi quasi teatrale di ricostruzione, di riconnessione con il VII secolo, un nuovo passato, anche questo. Il VII secolo, l'alba dell'Islam, infatti il leader dello Stato Islamico ha adottato un nome arabo tradizionale, lasciando il suo, si è fatto proclamare califfo, si veste di nero, usa un vessillo nero con la professione di fede musulmana, poco importa che questi riferimenti siano pasticciati alla fine. Baghdadi, lui si chiama Abu Bakr al-Baghdadi, Baghdadi nel VII secolo ancora non esisteva. Il nero è il colore associato con gli Abbasidi, non con l'inizio dell'Islam. La grafia e la disposizione delle parole sul vessillo segue la convenzione ottomana, non quella dell'inizio dell'Islam, per non dire delle stragi di cristiani. Ovviamente anche quelle, tra l'altro, molto teatrali. Quindi dicevo, questa serie di inaccuratezze alla fine non ha importanza, perché il messaggio a volte passa e la nostra memoria storica del califfato, come storici, è spazzata via con facilità. E purtroppo un atteggiamento di questo genere non è limitato a questo estremismo, che è alla fine facilmente riconoscibile, ma si vede anche in molte analisi contemporanee. Per esempio i conflitti settari fra sciiti e sunniti vengono fatti risalire a un conflitto per la successione del VII secolo, come se i 14 secoli che sono intercorsi tra questo conflitto particolare e il presente non avessero nessun tipo di sfumature, come se fosse stato un conflitto continuo. Un altro esempio molto ovvio è quello delle crociate. Le crociate impiegate sia a sud che a nord del Mediterraneo per simbolizzare un po' di tutto: la guerra contro l'altro, il conflitto e appunto il conflitto di civiltà. Ma proprio lo studio accademico delle crociate mette noi come studiosi sotto accusa, perché sì, sappiamo tutti che le crociate ebbero un'importanza molto diversa per l'Europa dell'importanza che ebbero per la riva sud del Mediterraneo, in cui era un conflitto regionale come tanti altri. Sappiamo tutti che i contatti fra crociati e arabi non si limitarono agli scontri, ma c'erano contatti commerciali, contatti intellettuali, eccetera, eccetera. Eppure, gli storici delle crociate viaggiano su due binari paralleli. C'è chi si occupa delle fonti arabe e c'è chi si occupa delle fonti latine. Ci si incontra in conferenze, ci si racconta tante belle cose, assì bello, e ognuno torna a casa sua. Come mi disse una volta un filologo romanzo, le fonti arabe sono sicuramente tanto interessanti, purtroppo sono in arabo. Allora, se siamo così noi, come possiamo comunicare al mondo un'immagine accurata del passato, se ci comportiamo così fra noi? D'altra parte, anche noi che ci occupiamo del mondo arabo, del mondo arabo islamico, abbiamo i nostri difetti, perché da una parte siamo spesso fermi a anche gli acerrimi nemici dell'orientalismo, spesso sono fermi a un positivismo ingenuo, laddove i colleghi che studiano altre parti del mondo sono andati molto avanti, noi spesso siamo ancora indietro da questo punto di vista. Dall'altra parte però i nostri riferimenti rimangono europei. Come la cosa più semplice, come definiamo la letteratura araba del IX secolo? La chiamiamo o letteratura araba classica, perché è il momento della fioritura, o la chiamiamo letteratura araba medievale, perché cronologicamente siamo nel Medioevo europeo. Quasi mai ci riferiamo a parti del mondo diverse, per questo mi ha colpito molto il lavoro che passa dal Messico all'Impero Ottomano senza dover coinvolgere necessariamente altre parti del mondo, perché tutto il lavoro, la maggior parte del lavoro che facciamo noi, quando parla di commistioni fra il mondo arabo e l'Europa e nient'altro intorno. Ora, cosa succede nel mondo arabo? Anch'io, come Roberta, ho fatto delle connessioni, perché il libro che ho letto subito prima di occuparmi del lavoro dei dosisti è questo libro di Abdelfattah Tibito, uno studioso marocchino che però scrive in francese, che si chiama Les Arabes et la Biographie, une étrange familiarité. Lui che è un esperto di letteratura araba classica, parla delle opere della letteratura araba classica che sono state quasi assorbite dall'Europa, perché lui dice l'Europa le ha potute ricondurre a dei generi letterari che conosceva già. Ora, qual è il problema? Che queste opere spesso non sono quelle che fanno parte del canone classico della letteratura araba, sono altre, per esempio l'Emilia una notte, che nel canone della letteratura araba non esistono e sono definite menzogne, stile basso, tutto quello che si vuole, e però hanno il vantaggio di essere facilmente traducibili. Vengono tradotte in francese la prima volta e poi da molti altri, vengono assorbite nella letteratura mondiale, e gli arabi sono chiamati penso si pronunci così, esperti nell'arte di mentire piacevolmente, tra l'altro, e poi vengono reimportate nel mondo arabo come parte di un canone letterario nuovo, come riscoperta del proprio retaggio. E Tibito in questo libro è molto divertente, perché lui si chiede retoricamente: ma forse io, studiando il Milione della Notte, ho fatto una cosa inutile, avrei dovuto dedicarmi alla poesia preislamica, alla prosa d'arte, quelle sì che sono una cosa degna di studio. E questo un po' è una dicotomia che trovo negli intellettuali dei paesi arabi, tra l'occidentalizzato, che si rifà solamente a punti di riferimento occidentali, e l'islamico, che è diventato il padrone del retaggio culturale, inglobando nell'aggettivo islamico anche cose che non hanno molto a che fare con l'Islam. Ultima cosa, come affrancarsi da questo? E anche questo penso che sia un problema o comunque un fenomeno da osservare. Il mio professore di storia dell'università diceva: bisogna liberare, bisogna uscire dal primo volume dei libri di storia. Noi studiosi dei paesi arabi islamici siamo ancora al volume 1 del VII secolo con l'avvento dell'Islam come un'anno. Vogliamo arrivare al volume 3, ma non soltanto quando arriva il terrorismo, quando arriva la fondazione di Israele. Vogliamo arrivare al volume 3 passando dal volume 2, quindi affrancandosi da una prospettiva solamente religiosa, cioè solamente il mondo arabo esiste, comincia a esistere da quando c'è l'Islam e tutto il resto è comunque islamico in qualche modo, insegnando tutto quello che succede nel mezzo, quindi appunto l'importanza del Cinquecento. Di nuovo mi sono molto ritrovata in questa espressione. Ecco, quindi questa non è esattamente una domanda, ma è una proposta che non so se può essere interessante. Finito, grazie. Passo subito la parola a chi tra Bettina e Maria vorrà intervenire. Cioè, in realtà questa modernizzazione iberica risponde, è organica, all'altra grande modernizzazione preesistente, il volume 2, che è quella proprio dell'Islam, che si allarga, no? Che tiene insieme tutti questi mondi. Per cui passiamo la parola a Maria Angelillo. Allora, io devo dire che non da storica, io non mi occupo di storia ma di antropologia dell'India, però ho trovato sia la lettura del libro, soprattutto quanto lei ha esposto questo pomeriggio, come denso di ispirazione per pensare soprattutto alla contemporaneità dell'India, cioè in verità non solo alla contemporaneità ma proprio agli ultimi, diciamo, almeno due secoli. Cioè l'India ha un rapporto con la storia paradossale, in cui questo paradosso si misura da il tradizionale disinteresse storiografico della cultura indiana per la storia non in assoluto, ma per la storia come la intendiamo noi, cioè per la modalità europea di intendere la storia, per quello che lei diceva prima, lo storicismo europeo. La storia in India, che è nell'India indù ovviamente, è descritta dal termine itihasa. Itihasa è il racconto di ciò che fu in principio, quindi itihasa è il termine con cui si descrivono i due grossi poemi epici indiani, no? Il Mahabharata e il Ramayana, quindi descrive una storia che in verità è una riflessione sulle origini della tradizione indù, non è una memoria di fatti oggettivamente successi, capitati. E a fronte di questa modalità, diciamo, della tradizione indù di intendere il proprio passato, anche la propria storia, c'è poi l'imposizione coloniale. Inizia come imposizione coloniale, ma poi ha uno sviluppo in senso nazionalista che prosegue fino ad oggi, di una storia invece che vada a cercare, diciamo, delle tracce di un passato simile a quello europeo. E non le trova, perché l'India, la letteratura sanscrita non ha prodotto raccolte di questo tipo, per cui le crea, come lei diceva prima, attraverso la mediazione con i bramani, quindi detentori tradizionali che parte della conoscenza del patrimonio indio, del patrimonio sanscrito, della letteratura sanscrita, di cui noi effettivamente oggi, forse come indologi no, ma come indianisti dubitiamo dell'effettiva cogenza di questa letteratura sanscrita nel passato e nella storia dell'India. Beh, comunque attraverso questo forzato ricercare nei testi della letteratura sanscrita, che sono testi di impostazione però religiosa, tracce di questa storia e quindi di ricostruirla. Quindi, per esempio, la prima storia dell'India è dell'Ottocento ed è stata prodotta da un funzionario della, dell'impero coloniale britannico, no? E tutti gli orientalisti che si occupano per primi di quella che non è una riscoperta della cultura indiana, è la reinvenzione, la ricostruzione della cultura indiana, sono tutti in prima battuta funzionali dell'impero coloniale, prima della Compagnia delle Indie ovviamente, poi dell'impero coloniale. E oggi si arriva a un paradosso che però è pregno di conseguenze nella vita politica e pratica degli indiani, perché era già successo nel 1998 quando il partito nazionalista indù, il BJP, aveva vinto le elezioni e in seguito alla vittoria, allora il BJP è il partito che esprime un'ideologia per cui, che si chiama Hindutva, per cui l'India è un paese indù, di cultura indù, di tradizione indù, quindi comunque un'ideologia che nega la storia culturale indiana e anche la grandezza e la ricchezza della cultura indiana. Quando vinse le elezioni nel 1998, la prima cosa che si affrettarono a fare fu una riscrittura dei libri di storia, perché questa storia, no, faticosamente ricostruita prima in prima battuta in sede di potere coloniale e poi di promozione, costruzione e soprattutto invenzione della nazione indiana, viene negata completamente da questa riscrittura in chiave indutva, in chiave nazionalista, che però sfiora il ridicolo, e questo è sottolineato dagli storici indiani, nel senso che poiché l'indutva appunto afferma come l'India è un paese indù, no? Di tradizione indù, la peculiarità della cultura indiana è relativa alla sua eredità indù, però noi dagli inizi del Novecento sappiamo che la prima civiltà sorta nel subcontinente indiano è la cosiddetta civiltà dell'Indo, quindi precedente all'arrivo dell'Indo-Arya, da cui poi dipende tutto lo sviluppo della tradizione indù. Questo crea una grossa contraddizione. E quindi quella che si era chiamata, no, fino a quel momento civiltà dell'Indo diventa civiltà dell'Indo Sarasvati, cioè a mettere insieme una peculiarità chiaramente identificabile con la civiltà vedica, questo famoso, mitico, oggi scomparso fiume Sarasvati, e la civiltà dell'Indo. Bene, questo dura fino al 2004, poi il BJP perde le elezioni successive e ritorna al potere la primavera scorsa con un enorme consenso, una maggioranza schiacciante, per cui questo processo di riscrittura della storia riprende in modo un po' più raffinato, diciamo, ed è in corso. È per esempio l'ultima così proposta che viene dal governo guidato da Narendra Modi, è quello di rinunciare al nome India, perché il nome India è un prodotto della storia multiculturale del paese, no? India evidentemente è dal fiume Indo, quindi non è una prospettiva etnica dell'indiano, cioè l'India si chiama Bharat e rimanda quel concetto di storia come itihas, come mito, perché Bharat è questo antenato mitico. India è invece la visione che ne hanno i primi, non invasori, ma i primi popoli che provengono da fuori dell'India e che si imbattono in questo primo elemento geografico che disegna i confini del subcontinente indiano, che è il fiume Indo, che Indo è semplicemente una mutazione fonetica da Sindhu, no? Grande massa d'acqua, e poi diventa il nome con cui è identificato questo fiume. Quindi effettivamente è il rapporto quello che io, proprio anche non in una visione da storico, ma più di antropologo, di continua reinvenzione della storia indiana, e questa reinvenzione è sempre soggetta a finalità di ordine chiaramente ideologico, ma questo non da oggi, cioè questo del BCP, queste finalità politiche sono l'ultimo esempio, ma tutta la storia che ci ha consegnato la tradizione nazionalistica non obiettiva finalità diverse da queste, cioè la famosa unità nella diversità. È una reinvenzione della tradizione indiana, della cultura indiana e della storia indiana che non ha mai descritto, no, un afflato unitario. Quindi era proprio questo aspetto che vi rapporto tra la storia e l'ideologia. È con grande soddisfazione che continuo sull'ideologia. Grazie. Adesso arrivo a Verona, se noi alla fine sono una cosa rapidissima. Visto che abbiamo preso a collocarci, oggi mi occupo di lingua e di cultura cinese e soprattutto degli aspetti discorsivi di questa materia. Però nella mia storia passata sono passata attraverso una formazione a scienze politiche in un filone della facoltà di scienze politiche che considerava le storie come uno dei pilastri della formazione, e di conseguenza ho un particolare affetto personale per questo tipo di materia, e nel insegnare cultura cinese destino sempre un terzo del programma a qualche forma di materiale storico sotto forma di libri scritti da altri, perché io non sono uno storico. Questo perché ritengo sia fondamentale per la formazione dei nostri ragazzi, che nella maggior parte dei casi cominciano a studiare lingua cinese e cultura cinese nel momento in cui mettono piede in questa sede universitaria. Cominciamo adesso da un paio d'anni ad avere qualche studente che ha cominciato a studiare cinese alle scuole superiori, ma a differenza della Francia si tratta di un processo iniziato da molti pochi anni, e quindi con noi cominciano a parlare di Cina, di fatto. E quindi hanno bisogno degli strumenti più basilari di qualsiasi aspetto del discorso noi facciamo. Ma oggi... poi concluderò con un aspetto didattico, ma vorrei parlare dell'histoire pourquoi faire dal punto di vista dei cinesi. E dal punto di vista dei cinesi, a differenza che quello che ho appena scoperto dell'India, la storiografia è stato uno dei filoni più importanti che hanno definito la civiltà cinese dal 220 a.C. in poi. Nel senso che insieme alla struttura istituzionale dell'impero, che pian piano è andata consolidandosi, dagli Han si è cominciato a scrivere la storia, e la storia aveva una funzione sostanzialmente politica. Una dinastia scriveva, pagava degli storici per scrivere la storia della dinastia precedente, in modo tale che emergesse chiaramente la legittimità della nuova dinastia. Per cui non solo c'è una continuità nella storiografia cinese istituzionale assolutamente eccezionale, dicono gli storici, se paragonata a tutte le realtà locali del mondo, ma c'è una precisa associazione tra una funzione politica e la scrittura storica. E questo naturalmente non ha fatto che rafforzarsi quando è stato adottato il marxismo e tutte le sue declinazioni come riferimento ideologico principale. Quindi con la Repubblica di Cina e poi la Repubblica Popolare Cinese non c'è più la stessa sistematicità nella scrittura della storia. Non c'è stata continuità politica sufficiente per garantire questa continuità, ma in ogni caso lo strumento della storia è comunque comunque associato alla necessità di o capire dei fenomeni e agire politicamente di conseguenza, o giustificare delle scelte politiche attraverso lo studio di fenomeni, il racconto di fenomeni precedenti. Una piccola annotazione volevo fare. Ho trovato nel libro di Kruczynski, a parte numerosi riferimenti alla Cina che si ricollega, a cui io mi ricollego, anche l'immagine dello specchio. È divertente vedere che nella cultura cinese c'è un'associazione tra la metafora dello specchio e la storia che è ribaltata rispetto alla nostra, nel senso che non è il futuro a essere lo specchio del passato, è il passato a essere lo specchio dentro il quale i contemporanei possono pensare di immaginare gli effetti delle loro decisioni. E questa è un'immagine legata alla tradizione confuciana, quindi si basa poi in realtà su fonti ancora precedenti al 500 avanti Cristo. Quindi uso politico della storia, costante uso politico della storia, che viene anche riaffermato nel discorso politico contemporaneo. E una espressione estremamente esplicita di questa scelta è il fatto che l'attuale dirigenza cinese, che è salita al potere nel 2012, nell'autunno-inverno 2012, guidata dal segretario generale del Partito Comunista attuale, che si chiama Xi Jinping, che poi l'anno successivo è diventato Presidente della Repubblica, come prima uscita collettiva, il gruppo dirigente come prima uscita collettiva dopo avere ricoperto questo ruolo, ha fatto una visita al Museo di Storia Nazionale, in particolare a un'esposizione permanente che si chiama La Via della Rinascita, e che è una narrazione della storia della Cina dal 1840 in poi. Si tratta di un'esposizione permanente che è stata inaugurata nel 2011, quindi in realtà l'esposizione esisteva da un anno, quindi non può essere un gesto casuale, perché erano concomitanti l'apertura della mostra e la presa del potere. Di conseguenza deve essere stata una scelta di qualche altro genere. Nel visitare la mostra, Xi Jinping ha fatto un discorso sulla rinascita della nazione cinese. E utilizzando un termine che è quello di rinascita, che in realtà viene dalla seconda metà dell'Ottocento, probabilmente è stato usato per la prima volta da Liang Cixiao, che era una delle grandi figure che si occupavano di pensare alle riforme necessarie per far sopravvivere l'impero cinese allo scontro con le potenze occidentali nelle guerre dell'oppio, e quindi a far sopravvivere questa istituzione. Questa visita di Xi Jinping e il discorso sulla rinascita della nazione cinese e sul sogno cinese, che poi è stato uno delle parole chiave che sono state associate a questa figura politica negli anni successivi, sono passati pochi anni, ancora non sappiamo esattamente che tipo di posizione poi questo gruppo dirigente sta assumendo in contrapposizione alla generazione precedente dei leader, però in questa prima uscita il primo obiettivo è senza dubbio un messaggio interno, cioè un uso politico della storia verso la nazione cinese. E questo lo dico perché nella narrazione della nostra permanente il filo è questo che vi faccio vedere. Il Museo Nazionale di Storia si trova a Pechino e, guarda caso, si colloca in piazza Tiananmen, che è il luogo deputato al potere, nel senso che rappresenta il potere imperiale, perché c'è il palazzo imperiale che voi forse avete visto nell'ultimo imperatore di Bertolucci, e incarna il potere dell'epoca comunista perché è la piazza delle grandi parate celebrative, di qualsiasi tipo di celebrazione. Una mia docente tanti anni fa mi aveva detto 40 volte piazza del Duomo, per darvi un'idea dello spazio. Uno dei lati della piazza è occupato dal Museo di Storia, questo storicamente, ma questa mostra è stata rielaborata negli anni 2000, nel senso che esisteva un museo di storia nazionale che aveva una permanente. Questa permanente è stata riprogettata all'inizio degli anni 2000 e inaugurata nel 2011. Hanno collaborato alla creazione del museo anche dei tedeschi. Quando è stata inaugurata la mostra, in Germania c'è stato una fortissima reazione, ovviamente degli intellettuali prevalentemente, che hanno fortemente criticato i propri connazionali per essersi prestati a collaborare a una descrizione della storia cinese che mette palesemente in ombra dei momenti tragici. E i due momenti che vengono citati più spesso sono il grande balzo in avanti, con relativi milioni di morti per fame, e la rivoluzione culturale. Allora, quello che mi interessa mostrarvi è che nel sito del Museo di Storia di Pechino, tutto il sito è stato tradotto in inglese, alcuni piccoli brani sono stati tradotti in numerose altre lingue, tra cui l'italiano. Non so se si legge, ve lo leggo, perché questo dà un'idea di un paio di elementi. Prima di tutto, come vedete, il testo è diviso in tre paragrafi. Il primo e l'ultimo sono delle dichiarazioni molto generali. Il secondo è di fatto una descrizione di che cos'è la mostra. La Cina, paese caratterizzato da operosità, coraggio, saggezza e desiderio di pace, ha contribuito in maniera fondamentale al progresso della civiltà umana. La prosperità nazionale è stata oggetto di sforzi di innumerevoli generazioni. Questo è il primo paragrafo. E l'ultimo, perché ritengo che siamo collegati, è: al giorno d'oggi la civiltà cinese ha raggiunto in Oriente una posizione di grande rilievo. In Oriente. Brillanti prospettive di questa grande rinascita forniranno alle generazioni future i mezzi per la realizzazione dei loro sogni e desideri. Allora, dopo diamo un'occhiata anche nel mezzo, ma è chiaro che abbiamo una reinvenzione del passato imperiale, un passato rilevante per la civiltà umana, e nel libro di Krasinski si fa riferimento all'inaugurazione dei Giochi Olimpici del 2008 e in particolare alla presentazione di alcuni stereotipi di come la Cina abbia contribuito alla civiltà umana, la bussola, la carta e così via. E il discorso sul passato glorioso precedente alla storia attuale e precedente alla storia del 1840, che è quello della mostra, si ricollega a un'affermazione di potenza in ambito locale, perché la civiltà cinese ha una posizione di grande rilievo in ambito nell'Oriente, e poi questa frase, che a mio parere può essere interpretata in infinità di modi, sulle brillanti prospettive, dove le brillanti prospettive sono quando la Cina sarà molto rilevante anche per tutto il resto del mondo, per quanto mi riguarda. L'elemento centrale del discorso invece è una descrizione dei contenuti dell'esposizione. Vorrei semplicemente sottolineare alcune formule, perché non ha senso che leggiamo tutto, tanto se mai lo leggerete. Parla di discesa nell'abisso semicoloniale e semifeudale, parla di rinascita nazionale, in particolare nelle lotte del Partito Comunista Cinese per la liberazione e l'indipendenza di ogni gruppo etnico, scusatemi, e parla di glorioso e lungo percorso per il raggiungimento della felicità e della prosperità nazionale, confermando la scelta del marxismo e ribadendo che le priorità cinesi nella e ribadisce le priorità cinesi nella promozione del socialismo con caratteristiche cinesi e l'impegno permanente lungo la via del socialismo e nell'applicazione delle teorie socialiste. Ora, questa presentazione è fatta per gli italiani, evidentemente, perché i cinesi così non la vedono. E se mettiamo questo tipo di rappresentazione a confronto con le critiche tedesche, ci rendiamo conto che stiamo parlando di due cose diverse, nel senso che i cinesi hanno un progetto politico così chiaro, così esplicito agli occhi di tutto il pubblico cinese, che nella presentazione è evidente: stiamo celebrando il comunismo, lo scrivono. Quindi l'uso della storia per celebrare questo aspetto della storia. Affermazione politica esplicita. La reazione europea è, a parte vi siete voi tedeschi vi siete prestati a un gioco politico che potremmo non approvare, ma come? Fate una rappresentazione della storia cinese così orientata politicamente? C'è una contrapposizione, cioè è proprio la definizione stessa dell'uso che si deve fare della storia è diverso. I cinesi non affermano nessun interesse per l'oggettività. Non è importante. Ora, è vero che questo museo si rivolge anche al pubblico estero, tanto più che ormai in Cina passano dei flussi abbastanza rilevanti di turisti cinesi, ma il primo pubblico di riferimento è senza dubbio il pubblico cinese, la scolaresca che viene portata in gita a Pechino magari a vedere i luoghi del potere e anche, già che ci siamo, al Museo di Storia. L'altro elemento volevo sottolineare è che nella narrazione di questo periodo storico il riferimento costante è a quella formula cinese che è il secolo della vergogna, cioè da quando l'impero cinese è stato sconfitto dagli stranieri in poi, e da quel momento è stato un secolo di vergogna per la Cina. Questo però è interessante da un altro punto di vista, perché significa che qualsiasi narrazione cinese di quell'epoca non può prescindere dall'eurocentrismo. Cioè la rinascita è nei confronti dell'Europa. Adesso poi che i cinesi facciano una grossa differenza tra Europa e Occidente, in senso anche quindi Stati Uniti d'America, probabilmente non la fanno. Ma è un affrancarsi dove però l'altro, la controparte, è sempre quella. E questo è interessante anche perché contemporaneamente i cinesi affermano in un certo numero di scienze sociali di sempre progetto politico, intendiamoci, non è una questione accademica in questo caso, di volere riaffermare il proprio diritto a stabilire l'agenda in queste materie, e loro lo chiamano diritto autorità discorsiva, cioè si chiama a raccolta l'Accademia cinese perché l'Accademia cinese pubblichi il più possibile all'estero, mi ricorda qualcosa, ma che nel fare questo cerchi di non riprodurre i paradigmi dei posti dove pubblica, ma anzi di riuscire a esportare qualcosa di innovativo e che in qualche modo dimostri l'indipendenza della Cina dal sapere declinato in termini occidentali. Finisco soltanto, non so il tempo che ho preso, scusatemi, finisco soltanto invece con una questione. Se io devo raccontare questo ai miei studenti, come lo racconto? Cioè, si pone un problema didattico forte, perché io posso raccontare, cioè esiste ci deve essere una differenza nel loro bagaglio culturale, possibilmente, tra lo scoprire ciò che i cinesi dicono di sé, che è uno degli obiettivi che noi abbiamo nei nostri corsi, perché è la voce di quelli che andiamo a scoprire, quindi è fondamentale per loro che facciano propria la possibilità di ascoltare questa voce. E contemporaneamente si pone il problema però di mantenere qualche forma di distacco che permetta di non prendere questa lettura della storia come la storia. Lo dico sulla storia, in realtà vale su molte altre cose, ma l'idea è, tentiamo, ma non è, io non ho trovato secondo me una formula, non solo necessariamente efficace, ma una formula snella, una formula che si possa praticare senza troppi giri di parole, per raccontare loro: i cinesi dicono questo, voi dovete imparare che i cinesi dicono questo, dovete anche ricordarvi che altri, per esempio noi, delle stesse cose diciamo qualcos'altro. Ora, la complessità del rappresentare il discorso e far studiare loro sia la lingua che nella cultura il discorso dei cinesi, e contemporaneamente mantenere un piedino nella cultura d'origine, essendo studenti che cominciano e che quindi se si entusiasmano molto, non è facile. Quindi secondo me tra le questioni per la didattica c'è anche questo. Grazie Bettina. Io so che stiamo sforando i tempi, sono molto mortificata perché non avevo capito che la collega Gualtieri dovesse andare via prima delle 5 e quindi per fortuna abbiamo avuto occasione di appunto chiacchierare, soprattutto lei ha partecipato al convegno di 2 giorni sulla decolonizzazione. E visto che non c'è lo sciopero possiamo allargare un pochino i tempi, la cronologia della discussione, però ho l'impressione che ci siano forse dei donatori che devono andare via, quindi per ragioni di tempistica, quindi la parola a chi deve andare, e poi dopo riprendiamo il filo della scaletta se è possibile. Chi è in... No, ma il relatore può anche rimanere religiosamente in silenzio. Non c'è un obbligo di parola, perché se no appunto io avrei... Sì, Ascoltiamo un po'. D'accordo. Allora, cominciamo a... Perché appunto io volevo, per completare questa sorta di cartografia, chiedere a Federica Morelli e poi appunto a Vincenzo e a Laura di, se hanno qualcosa da dire su questo mondo americano, mondo iberico, e poi a Paola, se non è in partenza, Europa. E su questa base io ho sfruttato appieno i miei colleghi in questa sorta di cartografia. È una maratona, lo so, mi perdonerete. E se siete d'accordo a procedere in questo modo, poi lasciamo la parola finale a Sergio e poi alle domande se qualcuno esiste. Procediamo così, chi degli americanisti vuole intervenire? Federica, non è obbligatorio. Grazie Maria e grazie Sergio, scusate il ritardo, ma ho avuto un ritardo del treno. Niente, mi fa molto piacere essere qui e avere l'opportunità di discutere questo libro che è interessante, come è stata interessante la relazione di Serge. E, forse, ma poi forse da un po' di me, mi aspettavo che ci ha fatto commentare magari questo libro da un altro tipo di storia, un po' ovviamente perché in parte ovviamente sono molto sensibile anche condivido le preoccupazioni e le questioni che si pone in questo libro, magari se non lo so, forse dopo vengo, ma credo di no, conoscendo Maria, però da uno storico magari appunto che è meno sensibile a queste cose, mi immagino uno storico, non lo so, italiano del 700-700ista, come potrebbe reagire, no? Forse sarebbe interessante i miei commenti, che ovviamente vanno nella direzione di quelli di Sergio, e forse anche meno interessante delle colleghe che mi hanno preceduto, perché in qualche modo e anche qui un po' paradossalmente mi sento meno esotica rispetto appunto a La mia prima reazione è, ovviamente alle domande che si pone il libro, che si pone Serge, è siamo messi molto male, nel senso che forse ha ragione a Tagurai quando dice siamo, cioè la storia morirà, perché la storia non può sopravvivere, diciamo, in questo mondo globalizzato. E se penso soprattutto all'Italia, alle nostre discipline, no? Non solo alle divisioni tra cronologiche che non hanno nessun senso e che però ci costringono per motivi anche in qualche modo accademici, eccetera, a rispettarle, e anche motivi legati alla didattica, all'acquisto di libri, eccetera, quindi questo è un problema grosso. E è un problema a come sono relegate un po' le nostre discipline, cioè in Italia la storia moderna e la storia contemporanea sono la storia dell'Italia fondamentalmente, o massimo dell'Europa. Già c'è la storia dell'Europa orientale, che ovviamente è come se fosse appunto un'altra Europa, no? Se è Europa o non Europa, fino a che punto è Europa, quindi già la storia dell'Europa orientale è un'altra cosa. Per non parlare di storia dei mondi extraeuropei, storia dell'America, storia dell'Asia, storia dell'Africa, tanto che fino a poco tempo fa la storia la storia dei paesi afroasiatici, cioè poi l'hanno divisa, ma fino a qualche anno fa era così. E le storie dei paesi extraeuropei che appunto non rientrano nella storia moderna, contemporanea, nella storia medievale, come si diceva prima, fanno parte di un raggruppamento che si chiama Storia delle Relazioni Internazionali. Quindi, come facciamo a fare una storia globale quando la storia dei paesi extraeuropei viene relegata a una storia delle relazioni internazionali che è non una storia positivista, ultra positivista, ultra, io ora magari dico qualcosa, però non dovrei dire tutto ciò che internazionalista che scrive lui, però è un problema questo. Come facciamo a fare appunto una storia che non sia, ovviamente la storia delle relazioni internazionali è una storia, dicevo, ultra positivista, perché si basa sullo stato nazione, sullo stato nazionale come elemento centrale. Quindi noi che le storie degli altri paesi, dei paesi europei, sono relegate nelle storie delle relazioni internazionali. Quindi ovviamente altro che una generazione si fa storia del tempo presente, cioè delle relazioni tra la Cina, l'Europa, la Cina e gli altri paesi, eccetera. Quindi questo appunto è un problema grosso. Se andiamo a vedere le tesi di dottorato di storia, per riprendere anche quello che diceva la collega, la maggior parte delle tesi di dottorato, ovviamente non di questi dei paesi, diciamo, extraeuropei, ma di storia moderna contemporanea, sono sull'Italia, sull'Europa e sì, fondamentalmente sull'Italia, se non vedere, perché la difficoltà anche non solo per la mancanza di fondi, che in Italia forse più strutturale rispetto a altri paesi europei, la difficoltà comunque di dialogare con il mondo e anche di andare a parte alcuni casi, delle eccezioni che ovviamente ci sono. Quindi dicevo, siamo messi male se guardiamo ai progetti europei, Horizon per esempio, se vediamo le materie nostre, cioè le materie umanistiche, che a che tipo di progetti possono partecipare, sono progetti appunto che hanno uno sguardo verso l'interno, sono progetti che guardano alla patrimonializzazione, alla memoria, alla costruzione della memoria, però da un punto di vista strettamente europeo. Se guardiamo altri progetti europei del programma, altri progetti del programma Horizon, quelli che si chiamano Europe as a Global Actor, quindi l'Europa nel mondo, si pongono la domanda, già forse questa è già un po' più interessante, come può l'Europa, cioè per esempio quelli rispetto al progetto che sul delle relazioni Europa-America Latina, si pone la domanda come può l'Europa riacquistare un ruolo predominante in America Latina. Questa è la domanda che si pone il progetto, quindi che ovviamente va insomma, in qualche modo anche contro quello che abbiamo detto prima, tutto quello che abbiamo detto prima. Per cui dicevo, è molto difficile, no, fare una storia come quella che propone Serge, come io, cioè, che io condivido, però con questi strumenti, con queste istituzioni che comunque ci costringono e con questi strumenti che abbiamo per fare ricerca, che sono appunto soprattutto i fondi ormai sono solo i fondi europei. Questa è una prima cosa, e quindi forse sì, partire dai progetti nelle scuole mi sembra un'ottima idea, cioè nel senso partire da questa dei progetti nelle scuole. Il problema è che forse in italiano non c'è un libro come quello di Sergio da proporre ad un liceo, quindi bisognerebbe prima poi o che si traducesse o che qualcuno lo scrivesse. Quindi l'altra, poi vabbè, il libro ovviamente sono d'accordo nel che occorre cambiare, diciamo, la prospettiva, lo sguardo. In realtà poi le fonti sono quelle, si possono utilizzare fonti vecchie, ma occorre cambiare e spostarci di prospettiva per comprendere, per fare appunto questa storia globale. E sono d'accordo anche con la questione della microstoria, no? La microstoria forse è un po' questo, no? Cioè, l'obiettivo era di dare quello che poi fanno in post-colonia, una voce subalterna, cioè a quelli che non potevano essere fino a quel momento, non erano stati presenti, no? Più popolari, chiamarli anche subalterni. E però inserirli in un contesto, quindi non è che la microstoria in qualche modo è una qualcosa che va verso l'interno o verso il locale chiudendosi, no? Credo che invece appunto poi ci sono tanti modi di fare microstoria e alcuni modi di fare microstoria, soprattutto io penso in ambito anglosassone, poi non rispetto molto, no? Questa idea di rimettere, diciamo, la prospettiva locale in un contesto più ampio, che era all'inizio l'obiettivo degli storici della microstoria. Un'altra cosa che mi ha colpito è la definizione di Occidente, perché poi il libro si pone anche la domanda, no? Parlando di Huntington, dice: l'Occidente per Huntington è solo l'Europa, gli Stati Uniti, l'Australia, il Canada, eccetera, eccetera. L'America Latina non rientra nell'Occidente, però no, cioè, alcuni storici latinoamericanisti, forse non so se mi ci metto anch'io, hanno in qualche modo assunto questa posizione, perché se pensiamo ad esempio a due libri famosi che sono stati tradotti in più lingue, uno è L'altro Occidente, no? Perché come se l'America Latina non fosse altro, un occidente altro, no? E non è l'occidente, appunto non rientra nella definizione di occidente, e oppure l'estremo occidente, no? di Rucchieri. Quindi invece appunto di vedere l'occidentalizzazione, il processo di occidentalizzazione, se vogliamo di modernizzazione, come una cosa che va nelle due direzioni, cioè l'occidentalizzazione non è solo l'Europa che conquista il nuovo mondo e che si espande, diciamo, ad ovest, ma l'occidentalizzazione, come dice Dani Serge, è anche un processo di ritorno, no? Che dall'America Latina ritorna in Europa e cambia l'Europa, non solo fa scoprire ovviamente agli europei chi sono, ma ovviamente produce anche degli effetti economici e sociali estremamente importanti. culturale estremamente importante. E un'altra cosa che ovviamente che mi ha colpito e che leggo più alle cose che mi interessano in questo studio è questa idea, diciamo, di ovviamente oltrepassare le frontiere nazionali, imperiali, eccetera, e questa idea di una moltitudine, no? Di gruppi di persone che si incrociano in qualche modo, no? Come diceva Sergio, dell'Amazzonia non ci sono solo spagnoli, portoghesi, indigeni, ci sono anche inglesi, olandesi, eccetera, no? Per cui e in qualche modo questo crea anche un problema nel come ci si definisce. E qui faccio un esempio di un libro che abbiamo discusso la scorsa settimana, quello di Tamarezzo, sulle Frontiers of Possession, e c'è un episodio molto curioso a un certo punto, appunto, in Amazzonia, su questa frontiera, che poi è una frontiera che si costruisce progressivamente con l'occupazione dei territori, appunto rendere gli indigeni vassalli della Spagna invece che del Portogallo, una frontiera che cambia, una frontiera mobile, eccetera, e è una frontiera in cui che si costruisce anche grazie all'opera ovviamente dei missionari, no? Quindi c'è questo episodio molto curioso dove c'è un missionario boemo dalla parte con i gesuiti portoghesi, e invece un missionario di Vienna che è con i carmeliti dalla parte spagnola, e che cominciano appunto a litigare per una questione, appunto, per la questione legata alla frontiera e agli indigeni, e quindi lei si chiede come avranno parlato tra di loro, come si definiscono, no? Perché in realtà uno si definisce portoghese e l'altro spagnolo, però in realtà si potevano anche definire in un altro modo a seconda delle situazioni, a seconda dei contesti. Quindi questa fluidità che deriva da questo incontro, no? Tra questa mobilità anche nell'identificarsi in qualche modo, e nel scegliere di essere in un certo momento o non essere in un altro momento. E, ritornando appunto poi su un altro tema molto caro a Sergio, quello del mestizaggio, ho trovato appunto, questa è un po' la domanda, cioè a un certo punto ho trovato riferimento anche alla violenza, cioè nel senso il mestizaggio non è solo mescolanza ideologica o culturale, eccetera, fascista, ma beneficiato è anche prodotto dalla violenza, e quindi per questo è instabile. E quindi mi aveva colpito molto questa cosa qua, per cui è instabile nel senso che dipende appunto, determina l'identità o cambia, cioè non è, vorrei un po' che mi spiegasse questa cosa, che cioè, mi ha colpito ma non riesco bene ad afferrarla. L'altra cosa è il ruolo del mare, come appunto il mare che diciamo connette appunto tutti questi mondi, no? È un po' come se oggi, cioè un po' come se il mare nel 16° e 17° secolo fosse stata la rete di oggi, cioè l'internet di oggi era quello effettivamente che collegava, no? Le varie parti del mondo tra loro. Per quando appunto facevi riferimento a degli episodi appunto che avvenivano simultaneamente, o che appunto c'era la presenza di appunto, che detto prima di Amazzonia, di appunto anche inglesi, francesi, eccetera, questa mobilità io la ritrovo, io sono più, mi ma più del 700 e dell'800 rispetto appunto a Sergio e Maria, e la ritrovo anche in questo, nel XVIII secolo, che è un po' il secolo in cui dici magari dove c'è perlomeno un tentativo di controllo, magari dove c'è anche più violenza, più tentativo, cioè più volontà di dominare in qualche modo e di controllare. In realtà questa mobilità c'è, e questa anche flessibilità, no? nei gruppi, nelle persone, anche nei rapporti tra dominatori e dominati, in questo senso. E c'è anche questa connessione tra mondi, diciamo, tra mondi che apparentemente sono lontani e non passano per l'Europa. E lì è venuto a un certo punto, come Sergio parlava, l'episodio famoso, che per gli europei non è molto famoso, ma per gli argentini sì, degli invasioni inglesi di Buenos Aires nel 1806. La flotta che parte, appunto, che va in barca della città di Buenos Aires, parte dal Sudafrica. E quindi c'è, appunto, oltre appunto alle connessioni che magari conosciamo di più perché molto studiate tra Brasile e Angola, che non passano per il Portogallo, cioè questi processi economici e commerciali che ovviamente si fanno direttamente tra Africa e America del Sud, c'è anche questa cosa, cioè la flotta inglese che invade il Buenos Aires nel 1806 aveva combattuto contro i Boeri in Sudafrica. Grazie Federica. Se i colleghi latinoamericanisti letterati hanno voglia di intervenire, volevo aggiungere qualche cosa, e poi dopo c'è Paola. Io ho cartografato questa storia, vi ringrazio per la pazienza, sono un po' saltati i tempi, ma originariamente era una tavola rotonda di ampio respiro, poi ci si è messo uno sciopero che è stato annullato. Io in realtà non vorrei parlare di America Latina, non voglio parlare di tutte le suggestioni che mi ha suscitato questo libro, perché rimarremo qui fino a domani mattina, credo. Condivido tutte le tracce, tutti gli stimoli, il discorso delle connessioni, il discorso delle localizzazioni, e tutti i riferimenti teorici, e anche molto di più quello che non c'è, perché vedo una traccia che si muove dalla psicanalisi alla fenomenologia contemporanea, soprattutto nell'atteggiamento di questo testo, che è un atteggiamento di grandissima generosità. E proprio perché bisogna sempre considerare i nostri lettori impliciti, i nostri, diciamo, uditori espliciti oggi sono appunto un pubblico di dottorandi, questo libro io l'ho trovato più che altro uno straordinario esempio di che cosa significa chiedersi che studioso si è, che cosa si sta facendo, chi si è come studioso. E questo passa da una soggettività che non è, appunto, come è stato detto oggi, presentismo, ma è proprio un soggetto che si apre all'altro e che si interroga sulla relazione profonda. È un libro che è intriso di questo senso profondo della relazione come connessione, quindi a livello scientifico, ma anche della relazione con il proprio lettore, continuamente, questa sorta di apertura che è l'unico luogo che ci dà, sostanzialmente ci disvela il senso del mondo. E quindi il mio è un grazie per questo dono, perché appunto questa in realtà, se poi rintracciamo tutta la storia del dono, la vediamo appunto ancora una volta incarnata in un oggetto che dimostra tutto questo, e mi ha emozionato molto, perché proprio quando anch'io mi interrogo molto sul mio ruolo di educatrice e sulle tante impossibilità che la mia localizzazione mi porta. Io sono in Italia, insegno appunto la letteratura di un continente in uno stato che si pensa come nazione, e quindi già c'è una simmetria di base che fa saltare tutte le categorie possibili. devo per forza stare nelle connessioni, e stare nelle connessioni dal punto di vista letterario significa indagare gli interstizi e quindi esplorare le fessure di senso che tacciono piuttosto che dire. Questo non significa non avere un atteggiamento filologico rigoroso, e la mia formazione infatti mi fa arrivare dalla filologia romanza per poi approdare a questo tipo di approccio, e credo che per questi giovani studiosi, per chi e per tutti questi dottorandi che ci stanno ascoltando qui oggi, il fatto di interrogarsi sempre sul senso profondo della loro ricerca, prima di tutto come uomini, come portatori di una memoria che è la propria memoria, è una memoria che sempre si proietta al futuro, perché insomma, citando Benjamin, il passato serve per guardare il futuro e per sostanzialmente tutta l'esperienza che noi capitalizziamo ci serve proprio per leggere la realtà. Quello che emerge da questo libro è proprio il fatto di porsi interrogativi sempre, e questi interrogativi devono essere coerenti con la propria corporeità, col proprio corpo che attraversa il mondo. E di qui un'ultima osservazione su che mi è piaciuto moltissimo il capitolo della teatralizzazione della tua opera, perché la trovo proprio in una manifestazione contemporanea proprio dell'uscita dall'individualismo e dell'entrata nell'era del testimone, un testimone che Vieviocca ce lo racconta come siamo nell'era del testimone, ma che già nel 72 Ricoeur, diciamo, poi riprende nel 92 nella storia della memoria dell'oblio, ma già nell'articolo del 72 incarnava molto bene il testimone è chi si carica sul proprio corpo la verità degli altri, e quindi sostanzialmente questi giovani che si rendono testimoni danno il senso profondo del tuo messaggio. Questo mi è piaciuto moltissimo, al di là poi di tutte le piste, di tutte le connessioni che si possono trovare. Allora, io passerei la parola a Paola Cattani, che si occupa di Europa, perché questo testo, come sapete, ha una domanda di fondo importante, cioè quale posizione possono assumere oggi gli storici in Europa, anche nella prospettiva della costruzione di una storia europea. Non chiediamo a Paola di rispondere a questa domanda, ma di dirci nell'ambito dei suoi studi che impressioni ha tratto. Grazie. Confermo che non risponderò a questa domanda. No, grazie di cuore a Maria D'Autore per la ricchezza di questa discussione, veramente. Io in effetti appunto mi occupo del dibattito sull'Europa tra le due guerre, e in particolare sull'ideale estetico, prima ancora che politico, degli scrittori europei, per come emerge, cioè gli scrittori europei tra le due guerre, per come emerge da alcuni luoghi di dibattito, diciamo, quei dibattiti sviluppati in varie sedi proeuropee, tra cui la Società delle Nazioni. E quindi sono, diciamo, condannato a dire necessariamente qualcosa sull'Europa e sull'eurocentrismo, anche se in realtà cercherò soprattutto appunto di formulare alcuni interrogativi che ho citato appunto alla lettura di questo libro. E i miei interrogativi saranno attorno a due punti principali, sostanzialmente. Da un lato, le difficoltà, vorrei toccare, diciamo, le difficoltà incontrate da chi si apre autenticamente alla prospettiva globale, cioè di chi accede, scrittore appunto degli anni 30 oppure ricercatore oggi, alla conscience monde, quella che viene, appunto, che ritorna nel libro. E il secondo aspetto invece che considererò è appunto un aspetto di cui mi sto occupando ora nelle mie ricerche, legato più al rapporto passato-presente e alla permanenza del passato nel nostro presente, che è appunto un altro filo conduttore problematico e cruciale del testo. Allora, comincerò le osservazioni che riguardano le difficoltà incontrate da chi si apre autenticamente appunto all'approccio globale, dall'istituzione di un parallelo tra storia e storia letteraria, visto che appunto di formazione io sono una storica della letteratura, e anche la storia della letteratura ovviamente ha avuto un'evoluzione verso una prospettiva globale, conosciuto un profondo ripensamento attraverso questo tipo di scelta, appunto, la storia letteraria mondiale o globale. E questo ripensamento è molto vivo nelle riflessioni di tutto il Novecento. Naturalmente questa riflessione si richiama, tra l'altro interessante, spesso a vario titolo, alla Weltliteratur goetiana, nel senso che Goethe con questo concetto è molto spesso richiamato da varie correnti che ora citerò. E questo lo dico anche perché anni di scrittori degli anni 30 ritornano su questo scrittore come modello di autentico europeo. Infatti uno dei primi dibattiti che la Società delle Nazioni organizza in senso proprio europeo è proprio il dibattito su Goethe, che negli anni 30 costituisce un terreno di confronto tra in particolare Francia e Germania, appunto divise non solo dalla guerra franco-prussiana ma anche dalla prima guerra mondiale, quindi un paradigma letterario per andare al di là delle frontiere nazionali in un momento storico particolare, quindi acquisire questa prospettiva non globale ma europea, ma che ha tanti punti in comune appunto con una prospettiva globale. Poi su questo torno. Dicevo, varie correnti della storia letteraria che cercano di affrontare, di approcciare dal punto di vista globale la storia letteraria, ovviamente gli studi postcoloniali, ovviamente le riflessioni eredi di una prospettiva sociologica come quella di Bourdieu, in particolare Pascal Casanova, la Repubblica Mondiale de Lettre, che cerca di riconfigurare lo spazio letterario mondiale ripensandolo a partire anche dai rapporti di forza tra centri e periferie, e ovviamente la comparatistica. Però qui vorrei soffermarmi brevissimamente sugli albori di questa comparatistica, perché risultano secondo me significativi. E cioè la comparatistica, per come è stata fondata in Francia negli anni 20 da Paul Hazard e Bernard Bazet-Perrier, i quali appunto nel 1921 fondano la République Littéraire Comparée, e con il preciso obiettivo di aprirsi ad una storia letteraria non più nazionale. E la loro prospettiva è interessante, che nei due testi fondatori, quello che inaugura questa rivista e quello invece di Hazard, che è la lezione inaugurale del suo corso a Collège de France, entrambi rivengono sull'idea che in realtà questi loro studi di letteratura comparata, la storia comparata delle letterature, come loro la definiscono, nasce da un'Europa nuova, e quindi da un'Europa dove la mobilità, e qui appunto visto che citavamo la mobilità come criterio fondamentale, loro registrano questa nuova mobilità europea e dicono: è più insensato di prima pensare alla storia letteraria nazionale. Quindi da un lato superamento della prospettiva nazionale o anche nazionalista della storia letteraria, che aveva informato anche la comparatistica precedente, cioè che cercava appunto di comparare per stabilire delle gerarchie o evoluzioni, quindi in particolare quella che viene da Atene e anche poi di Brunetier, e dall'altro fare del comparatismo luogo di studio dei contatti, dei transiti, delle traiettorie, dei transfer, degli scambi tra le opere e gli autori, per delineare appunto crocevie, carrefour. Mi soffermo appunto ovviamente su questa storia comparata delle letterature, perché da un lato varie analogie con l'istoria globale, che vede il passato appunto come un insieme di interazioni, scambi, che non vuole giustapporre narrazioni, non vuole essere storia delle relazioni appunto internazionali, e anche perché ha un ruolo fondamentale all'interno di questa storia delle comparate delle letterature e della migrazione. Infatti i primi studi che sollecitano questa prospettiva di Hazard e Bazet-Perrier sono proprio gli studi di test sugli emigrati letterari. Il punto di partenza, un'altra cosa importante che secondo me hanno in comune, è il caso specifico, la singola opera, quindi la riabilitazione. Questo va di pari passo con la riabilitazione, diciamo, delle demo che si ha nella storia globale, e anche su questo punto appunto tornerò successivamente. La seconda ragione per cui mi sono soffermata su questa storia comparata delle letterature è perché ci immette direttamente in una cucina che è quella degli anni 20-30, che possono davvero, a mio avviso, essere considerati un momento topico, diciamo, per certi versi comparabile appunto a quel XVI secolo di cui giustamente nel libro si propone di ritornare, e con appunto vari autori di questo periodo, vari scrittori che intrattengono un dialogo profondo appunto con questo XVI secolo. Gli anni 20-30 ovviamente sono un momento di riconfigurazione degli equilibri mondiali, di un ridimensionamento veramente cosciente del ruolo dell'Europa nel mondo, che si fa veramente tema di dibattito intellettuale. E si può citare qui, ma sarebbe forse troppo banale farlo, il testo quello di Paul Valéry del 1919, che apre la crise dell'esprit e dice: «Nous autres, civilisation, nous savons maintenant que nous sommes mortels». Quindi questo testo è spesso citato, forse è anche sopravvalutato, ma in realtà traduce bene da un lato la coscienza profonda di questa, appunto, conscience monde, dall'altro lato dà veramente il tono di un dibattito che poi riprende moltissimo questa citazione di Valéry. E per capire questo passaggio, diciamo, di Valéry, conviene attirare l'attenzione sul fatto che di lì a qualche anno Valéry proporrà una ricostruzione, forse un po' mendace ma comunque interessante, del suo impegno pro-europeista, nel senso che dice che per lui il transito dalla prospettiva nazionale, lui era un acceso nazionalista alla fine dell'Ottocento, al momento della Guerra del Fus, alla prospettiva europea avviene negli ultimissimi anni del XIX secolo, quando, in occasione della guerra sino-giapponese e della guerra per il controllo di Cuba tra Stati Uniti e Spagna. E questo è molto interessante perché è una cosa che anche altri autori dell'epoca riprendono, in particolare Andrés, anche lui dice: è stato fondamentale per me nel mio europeismo la guerra tra Spagna e Stati Uniti per il controllo di Cuba. Questo perché, da un lato, come dire, da quando la vecchia Europa viene sconfitta si rimette in discussione il suo ruolo, dall'altro il conflitto sino-giapponese, che non ha ragioni dirette, diciamo, di relazioni con l'Europa, di fatto si ferma, diciamo, uno spostamento dell'equilibrio mondiale, nuove potenze si affermano e mettono in crisi vecchie invece potenze come quella, appunto, della Cina. Dicevo, ricostruzione forse fallace ma significativa, e questa cosa va messa ovviamente in relazione anche con l'altra celebre affermazione di Valéry, più che un'affermazione un interrogativo preoccupato, in cui lui si chiede se l'Europa non stia diventando un petit cap du continent asiatique. Quindi questi, appunto, sono molto celebri. Questo per dire, facendo un po' il punto degli anni 20-30, che è un periodo di grande fermento per l'elaborazione della coscienza dell'Europa, e ci sono due pulsioni contrastanti. La prima, che secondo il meccanismo simile a quello descritto da Kuczynski nel libro a cui si conforma, diciamo, i resti fantascientifici del mondo unificato, si reagisce all'incontro con l'altro agglomerando, e quindi da un lato l'Europa cerca di difendere la sua primauté, e qui citerei in particolare due casi paradigmatici che sono il confronto con gli Stati Uniti da un lato e con l'Unione Sovietica dall'altro, con George Duhamel che scrive L'estende la mia cultura, perché appunto viaggia negli Stati Uniti si trova che sono nel 29 sono la proiezione di tutto quello che secondo lui l'Europa sta diventando e che non potrebbe diventare, e quindi propone di ritornare a certi valori secondo lui fondanti dello spirito europeo. E da un altro lato ovviamente Gide, che fa un viaggio nell'Unione Sovietica nel 36 e con, appunto, tutte le sue speranze, ideali, vede l'Unione Sovietica come un possibile faro di miglioramento per l'Europa, ma torna disilluso e ritrova i valori particolari dell'individualismo e della libertà, valori secondo me primatici e estetici. Quindi questo per dire, da un lato tentativo di difesa della primauté europea, ma dall'altro una profonda messa in discussione di questo ruolo che abbiamo visto attraverso le parole di Valéry, e ovviamente che vediamo anche in un'apertura all'orientalismo, che non è più l'orientalismo esotico, ma che diventa, con Monroe, per esempio, che appunto nell'Incantation de l'Occident suggerisce una via cinese per una riforma profonda dell'Europa, e su un altro versante altri autori come Guénon. Ma apertura reale che io ravviserei anche nel fatto che, per esempio, nei dibattiti che studio della Società delle Nazioni, a parlare di Europa e di identità europea sono convocati anche scrittori sudamericani, per esempio Alfonso Reyes, e alcuni di questi convegni si tengono, perché girano, insomma, sono itineranti attraverso le varie capitali europee, e alcuni di questi convegni si tengono anche a Buenos Aires. Quindi, insieme difesa e vera apertura all'altro, così inizia la riflessione che, non senza difficoltà, porterà fino ad alcune ridefinizioni paradossali dell'Europa, quelle più recenti. Cioè, le ridefinizioni paradossali, per citare tre casi, citerei Morin, che nel Pensée d'Europe dell'87 dice che l'Europa è un insieme di mélange, di scambi. Per tornare al mare, effettivamente dice, non ha confini, anche il suo mare è un insieme di scambi. E ancora, le definizioni paradossali di Oxmoor, che in alcuni articoli dove si occupa della cosa dice la presunzione di unità è assurda per l'Europa perché ciò che la caratterizza è precisamente la divisione, fino ad arrivare a El Traverso, che nel suo Histoire Commission de Bataille dice: se c'è un filo che organizza i valori europei, si tratta dell'apertura insieme chiusura all'altro che si ha in certe cose come l'orientalismo, il colonialismo e via dicendo. Allora, da qui la mia prima domanda. Allora, come passare nell'uscire dall'eurocentrismo, diciamo, come andare al di là del paradosso? Quindi in qualche misura questa domanda secondo me è parentata a quella formulata nel libro su come costruire una narrazione comune. Come passare dal particolare che abbiamo visto essere cruciale per la storia comparata delle letterature, perché è punto di apertura di itinerari globali, diciamo, come passare da questo particolare a una narrazione che tenga conto del long term, perché anch'io sono stata interrogata dal History Manifesto ed effettivamente ugualmente in questa prospettiva, diciamo, come concepire narrazioni che possano essere presenti accanto alle altre che abbiamo visto veicolate dai nuovi media. Quindi tra i tanti spunti forniti dal libro, ovviamente mi soffermerò su uno che mi ha colpito particolarmente, che è quello che riguarda l'approccio vissuto, esperito concretamente dalla pratica, appunto, non dal discorso, e la messa in scena teatrale degli studenti. L'assunzione del punto di vista dell'altro sostanzialmente diventa un postulato etico, quindi forse la via d'uscita è questa verso l'etica, verso la filosofia. E mi colpisce perché è consonante con la riflessione degli scrittori che studiano tra le due guerre, nella misura in cui questi teorizzano sulle tracce, appunto, di Montaigne, che sempre del XVI secolo, un continuo questionamento che ponga veramente in discussione le loro stesse posizioni per aprirsi, diciamo, a un engagement in grado di cambiare. Infatti loro stesso questo principio passano, come dicevo, dal nazionalismo più acceso a un europeismo che in realtà in molti è un'apertura autentica verso il globale, cioè in questo frangente europeismo non necessariamente significa eurocentrismo, e anche su questo torno poi brevemente. Passo così alla seconda. Quindi, prima domanda: passato e presente si incontrano nell'attitudine etica, forse? Boh. Passo alla seconda parte della mia riflessione sul rapporto passato-presente, appunto, e sarò brevissima. Ispirata dalla foto di copertina del libro che prima campeggiava anche là, mi ha riportato tra l'altro al tema del primissimo articolo che avevo pubblicato tanto tempo fa, che riguardava appunto un lavorato prima di dedicarmi sulla storia della letteratura nella storia dell'archeologia, e avevo quindi pubblicato questa cosa sulla legislazione bizantina sul riuso dei templi romani in età delle vestigia romane in età imperiale. E questo tema, diciamo, ho scoperto essere anche meno lontano di quanto mi avesse mai ripetuto rispetto alle preoccupazioni che inseguo ora e che vi illustro a partire da un altro aneddoto. E cioè, un po' di mesi fa ero ad assistere a una presentazione di un volume sulla storia dell'UNESCO, e era appunto nella sede dell'UNESCO a Parigi, tra l'altro molto bello perché è fatta tagliata da Le Corbusier. C'era appunto questa storia dell'UNESCO che ha fatto abbastanza discutere, perché metteva in causa l'opera soprattutto dei primi direttori generali, Huxley, il fratello di Aldous Huxley, che aveva una prospettiva, diciamo, sostanzialmente, secondo l'autore di questo libro, eurocentrica, non abbastanza affrancata dal colonialismo. Questa cosa era probabilmente indubbiamente vera, però al tempo stesso, io che ascoltavo, diciamo, la presentazione, avevo la percezione che ci fosse in corso uno più malintesi, e in effetti questo mi è stato confermato anche dalle reazioni degli altri e dalle direzioni che ha preso la discussione, nel senso che effettivamente alcune parole avevano cambiato significato e uso. In particolare, colonialismo non voleva dire la stessa cosa quando lo utilizzavano negli anni 40-50 e quando lo utilizziamo noi oggi. Internazionale ed europeo ugualmente non volevano dire la stessa cosa. E anche per Azare e Valdesperger, i quali sostenevano appunto un'apertura europea della loro storia comparata delle letterature, questo europeo precisamente indicava un'apertura globale. Loro tra l'altro dedicano alcune righe appunto a un'apertura ulteriore a quella europea, che però loro non sono in misura di portare avanti perché sono diciamo, ancorate agli studi dei rapporti, per esempio, tra il romanticismo francese ed italiano, eccetera. Però la loro cultura, quello che chiamano lo europeo, noi oggi lo chiameremo transnazionale. Quindi effettivamente, appunto, i termini cambiano, la prospettiva è cambiata e bisogna saper riconoscere quello che appunto Skinner chiamerebbe il locutionary act, cioè quello che volevano dire le persone che parlavano al momento. Allora, quindi in fondo quello che accadeva all'UNESCO, quella presentazione, è la stessa cosa tra l'altro che accade forse nella fotografia del libro o neanche nei virusi dei tempi, quelli delle vestigia romane. Il passato è senza soluzione di continuità, col presente ce ne appropriamo, fa parte di noi. Le parole concette, a differenza però delle vestigia, delle rovine, smarriscono forse più rapidamente il loro significato, potere evocativo, e quindi obliterano rapidamente le vecchie accezioni e si piegano più facilmente a quello che noi vogliamo utilizzare, anche se in realtà sono vettori che portano sempre delle visioni del mondo passato e presente. Quindi bisogna avere l'acutezza però di rintracciare i luoghi di anacronismo, e qui sono molto grata a Grudzinski per la rivalutazione dell'anacronismo, perché questi luoghi di anacronismo non devono essere, diciamo, identificati solo per correggerli, ma anche in una certa misura perché sono virtuosi, cioè perché ci dicono molto sui valori che informano il nostro presente, il nostro discorso. Quindi tra l'altro nel testo non mancano appunto casi di parole e concetti cruciali per la loro polisemia e la loro trasformazione. Infatti citavamo un poco fa l'Occidente, ma anche forse l'identità, insomma ce ne sono vari. Ecco qui quindi la seconda domanda e concludo. Possiamo inserire lo studio delle parole e dei concetti tra le operazioni fondamentali, diciamo, per effettuare quel recadrage di cui parla il libro, cioè per identificare diversi strati che compongono un momento e una scena, a partire dal presupposto che appunto le parole fanno parte della realtà e ci orientano nel mondo. E in questo modo, diciamo, sarebbe un esercizio lasciare parlare l'altro nella sua lingua, a rivivificare, insomma, per dire con Benjamin, la nostra lingua a partire da quella dell'altro. Quindi quali sono i luoghi verbali, questa è proprio l'ultimissima domanda, da ripensare, da meditare quando si pensa all'Europa e alla sua storia, quando si pensa al ripensamento dell'eurocentrismo nel quadro di una storia globale? Quali sono gli habitus mentali e linguistici secondo lei su cui rivenire con più urgenza, proprio per secondare la nostra riflessione? Grazie mille. Allora, grazie a tutti. Abbiamo fatto un pomeriggio intensissimo, densissimo, e non so se il nostro relatore è nelle condizioni di rispondere a tutte le domande che gli abbiamo posto. Io ti propongo forse di darci un saluto. Io sarei dell'idea che questa cosa la possiamo trasformare in qualche cosa di strutturato, tutti questi interventi. Perché credo che la possibilità che abbiamo avuto di metterli in rete, tutte queste esperienze, questi sguardi, è inedita. Mi scuso, sono saltati i tempi, nel senso che non ne sono consapevole, e quindi ringrazio moltissimo i dottorandi che sono stati qui con noi. Cedo a Sergio la parola per rispondere, e se c'è volontà di rimanere, appunto quest'aula era prenotata fino alle 18:30, ma sono anche consapevole che il sapere e il dibattito ha dei limiti anche legati alla forza fisica degli individui che li abbiamo messa a dura prova. Grazie. Non posso rispondere a tutte queste domande, ho imparato moltissime cose. Per me la parte più importante, più interessante di questo soggiorno a Milano, cioè quella possibilità. Purtroppo non abbiamo il tempo, non ho il tempo, non ho la capacità intellettuale di rispondere in 10 minuti a tutte queste domande. Ma quando ascoltando le osservazioni, le domande, tutti questi elementi così importanti, ho pensato in due o tre cose. Primo, e fu la prima domanda finalmente sulla rivoluzione storiografica. E solo posso parlare del caso francese. Ho avuto molte volte con molti chantier delle discussioni sulla storia globale, su perché? Perché dopo Baudel, dopo Chauvet, non c'è nessuno. Perché arriva la microstoria della Francia, che è una importazione, noi francesi abbiamo salvato Gabriel. immediatamente macinato dai terribili cattivi fascisti italiani, l'abbiamo salvato e Gingo è stato un prodotto del periodo di nazione sociale. E la tesi di Chartier è interessante, vorrei condividere questa tesi, ma è valida esclusivamente per la Francia, cioè nella Francia la traduzione della storia della storia broderiana o di Chaumet è sempre stata considerata come una storia di epoca, cioè del mondo collegato con gli Stati Uniti o Chaumet con l'ultra testa, cioè c'è una visione. Quando la storia interessante popolare di sinistra finalmente era la storia locale. L'angolo di Lovaladuri, quando Lovaladuri era comunista, non mi sa più l'ombra, la Provenza, cioè una identificazione tra la storia nazionale locale, la Repubblica, il culto della Repubblica francese, il discorso sulla Repubblica, da una parte, e dall'altra parte la storia degli, questa storia imperiale, world history, che finalmente degli inglesi, dei nordamericani, cioè il nord, la mia generazione ha vissuto con questa visione, cioè fare una storia, per me la storia interessante doveva essere di sinistra e i modelli erano esclusivamente modelli locali, i grandi storici. È vero che dopo la teoria è passata da una estremità all'altra, ma quella è un'altra storia. Dunque credo che è interessante vedere come c'è questa identificazione tra la microstoria e la storia di sinistra. Dunque, fino ad oggi c'è questa visione in maniera considerata che la world history, la storia globale, è una storia antifrancese. Ho presentato il libro delle Sciences Politiques una settimana fa, 5 di maggio, e c'era un professore della Sorbonne, Sirinelli, che ha difeso la storia nazionale, spiegato in maniera molto diplomatica, perché era un momento socialità accademica, no, la storia della storia della Francia. Cioè, quello è una dimensione. Altra dimensione, molto rapidamente, è interessante vedere che la microstoria di, abbiamo ricordato qui, storia dei subalterni, anche la post-storia. Cioè, finalmente il paesaggio è stato dominato durante molti anni per la microstoria, non in tutto il mondo. C'erano degli spazi che avevano la voglia di trasformare un po' il discorso storico, perché non dobbiamo dimenticare che fino ad oggi la storia classica tradizionale è dappertutto la storia dominante. Cioè, non dobbiamo pensare che negli Stati Uniti la storia globale è una storia dominante. Io insegno in Princeton, la storia globale è una storia completamente marginata. In Princeton c'è un professore del Dipartimento di Storia che fa storia globale e tutto il resto completamente in contrario della storia globale. E fino ad oggi non è una ideologia dominante, diciamo. Dunque, solo per questa riflessione, pensare che finalmente è molto strano pensare nel contesto di un processo di globalizzazione che il mondo storico finalmente, invece di accompagnare o di anticipare la globalizzazione, dopo l'apertura degli anni 50-60, Wallerstein, Voltaire, Charles Box, l'impero portoghese, Morino, ci sono molti altri, non unicamente francesi, dopo c'è con delle eccezioni. E nel caso della Francia che mi interessa particolarmente capire perché finalmente Tico de Zandar finalmente ha perso contatto con la realtà globale. Un'altra riflessione, credo che non posso piacere, ma non ho delle risposte per tutto e sono dei problemi molto complessi, ma vorrei dire che dobbiamo distinguere finalmente, sempre parlando della Francia, due piani completamente distinti. Finalmente, i programmi dei licei sono molto più aperti, della situazione universitaria. Cioè, questi ragazzi nel liceo di Rubio, il problema del professore non era la storia nazionale, perché lui doveva parlare dell'Europa nel mondo e aveva la possibilità di parlare di Messico, Istanbul, Cusco. E la direzione. Cioè, per questi professori, questi di questi licei di Grecia, devono parlare di cose, incluso di connettersi, e di spiegare a questi ragazzi come sono le connessioni, di come si fanno le connessioni tra il mondo, con una frase oggi, che è digna di una riunione di partito accademico, comprensibile per il corpo dei professori. Cioè, nella Francia c'è un piano di liceo che ha fatto una rivoluzione che non fornisce ai maestri gli strumenti per tradurre questi programmi così aperti in un'università francese, italiano anche, abbastanza chiuso, in generale chiuso. Quanti professori di storia dell'Università di Milano ci sono? Pochissimi. Cioè è rivelatorio di una certa realtà e situazione. Cioè, ovviamente per me le soluzioni, le risposte, quello che possiamo fare è tutto diverso se lo facciamo con i giovani, con il liceo di questo mondo della scuola secondaria e nel mondo universitario. Nel mondo universitario abbiamo anche parlato di questo, ci sono delle frontiere che sono non ideologiche ma istituzionali, ci sono dei dipartimenti, è molto difficile. E penso sempre nel caso dell'Ecole des Etudes, della Conscienza Sociale, l'Ecole des Etudes ha costruito, ha adattato dagli Stati Uniti l'idea del air culturel, aree culturali o zone culturali, giustamente per introdurre l'Ecole des Etudes negli anni 60-70 del resto del mondo. Ma oggi sono zone completamente fossilizzate. Ho scritto un libro che si chiama Per Regina Basso, la relazione di Istanbul-Messico, mai sono stato invitato dai colleghi che lavorano sulla Turca, sul Medio Oriente, i colleghi del Ecole des Etudes. Ho fatto dopo questo libro da qui, non mai sono stato invitato dai colleghi che lavorano sulla Cina, sono stato invitato dai colleghi che lavorano sulla Cina con Maria Matilde qui in Milano, o in Europa, in un'altra parte, ci motivo, no? Ma cioè la fossilizzazione di queste frontiere. E non voleva una posizione, cioè la gente non è interessata a scoprire libri che parlano della loro zona, ma che provengono da fuori. C'è anche un ostacolo che non è neanche ideologico, le conoscenze linguistiche. Perché la storia globale, ovviamente, è un problema enorme, non è limitato, ma la grande difficoltà è leggere altre lingue. È una difficoltà, non è una difficoltà. E credo che molte volte le reazioni dei miei colleghi sono... non c'è un'opposizione alla storia globale perché di moda e la gente non ha paura di dare una faccia arcaica, no? Ma soprattutto il fatto che la gente è incapace di parlare o di scrivere oltre un'altra lingua. E molte volte non siamo capaci di capire il peso di questi limiti linguistici. Questo blocca tutto. Perché noi sappiamo c'è una parte della produzione storiografica mondiale tradotta in inglese, c'è un'altra parte che non si traduce. E l'unica maniera per minimizzare questi effetti è leggere altre lingue. Sul caso della Cina, e forse è una risposta completamente stromata, no? ma quando vedevo questo testo, no? Perché non invece di civiltà cinese, civiltà romana, invece a Cina, civiltà, per me è un solitario. Per, giustamente per accendere la curiosità o far vedere che finalmente questo testo è cinese, ma non è così esotico, perché se no lo leggiamo come un testo di Mussolini, l'esaltazione della civiltà, immediatamente abbiamo questo atteggiamento del costrutto assoluto. Come cinese, non voglio dire che è lo stesso, ma mi sembra che può essere molto interessante di utilizzare questo testo per sapere è fascista la Cina o è anatomica. E quello può essere il punto di partenza, anche un punto che è legato alla realtà locale. Pensando in Sesto San Giovanni, lei stava parlando di Dio Dube. Sarebbe interessante fare un caso, perché abbiamo due poli che comparabili e poi abbiamo la desindustrializzazione e abbiamo tutta una serie di reazioni che sono non unicamente italiane e francesi, sono europee. Dunque, senza fare una storia della crisi del capitalismo industriale in tutta l'Europa, per me entrare in una storia globale partire da un testo, da una fonte, di un luogo, può essere Sesto San Giovanni. Di vedere che Rube arrivano tutti questi migranti. Ovviamente la tradizione dei lavoratori, delle lotte operai, tutto questo non ha significato per i nuovi abitanti di Rube, perché i genitori sono arrivati dall'Africa e perché non c'è più una civiltà industriale, non c'è più il partito comunista, non c'è più il marxismo, ci sono altre cose. Dunque, credo che sempre possiamo fare una storia globale partendo da un spazio dell'Italia che conosciamo abbastanza bene e dopo lei molto rapidamente può captare la meta del socialismo e anche può dire la Cina, perché qui la Cina è andata via perché sono quasi la vita della Cina fa. Sì, ma e tutto questo è molto possibile. Quando le ultime domande, mi dispiace non poter rispondere a tutto, ma non abbiamo più tempo, uscire dall'eurocentrismo, uscire dall'Europa, e la migliore, vedere l'Europa a partire dall'America Latina, per i poveri come noi che solo possiamo parlare lingue occidentali o dalla Cina. Questo testo ottomano sulla conquista delle Indie dell'America che fa 400 pagine, che fa la storia della conquista dell'America in spagnolo, in India e in portoghese, perché costantemente troviamo l'interpretazione islamica ottomana di questi eventi americani, cioè la scoperta, la colonia, la conquista, la cristianizzazione. Per gli agenti del diavolo e per i musulmani, no? L'osservazione della poligamia indigena è una cosa normale per l'osservatore ottomano, la celibatria, e c'è costantemente la necessità di diffondere la sciaglia dell'America, no? Per riparare questa brutta situazione creata dalla cristianizzazione. Dunque mi sembra che quello è una mania. L'altra maniera, credo che eurocentrismo, l'ho spiegato ieri, è un fenomeno, un processo completamente legato a storicismo. Dunque, non possiamo abbandonare l'eurocentrismo, siamo europei. Sembra una illusione totale, no? Come pretendere che siamo degli idios, come lo dice. Mi ha detto una volta, sono un indio argentino, ma... non possiamo evitare lo storicismo, ma possiamo, credo che quello è la missione dell'università o dell'educazione, esposti esistono, di fare la storia come la storia di questi movimenti dei migranti è molto importante per sapere che non siamo in crisi, che c'è una tradizione che critica l'eurocentrismo, abbiamo parlato di Las Casas perché non tempo siamo parlati di Las Casas, cioè ci sono degli elementi per sapere che noi non possiamo lasciare di essere europei, ma possiamo limitare i guasti forse attraverso questa critica rileggere il passato delle nostre relazioni con gli altri. Credo che sarà l'ultima parola, la cosa más forte per me è il contatto con questi giovani, perché noi abbiamo delle regole per il dibattito accademico, c'è la cortesia accademica, c'è tutta una serie di cose che abbiamo perché siamo molto civilizzati, ma quando il giovane nordafricano mi dice che non ha prego della letteratura francese, io sono nato qui, che fa? Cioè che ha una situazione di genere, non sono professore di letteratura, non mai pensa come questo, ma è molto forte la situazione. E fanno i professori? Non fanno niente perché non sanno che fare, devono insegnare Montaigne, Voltaire, tutto questo, e stanno di fronte ai giovani che dicono noi siamo un'altra parte del mondo. Necessita di considerare che l'arte è parte della cultura europea e che contro noi parliamo di letteratura, dobbiamo integrare in questa letteratura la letteratura musulmana che la Spagna aveva, per esempio gli scritti medievali di Sicilia, che sono parte di quello che è la maniera di rispondere, possiamo studiare questi cronache, questi testi che sono europei, che sono musulmani. È molto lavoro per noi, ovviamente, ma credo che quello è può essere una maniera, tutto dipende dalla situazione locale. Quello è per me la maggiore difficoltà, cioè non possiamo insegnare una storia globale a Milano come facciamo a Rue o come facciamo a Parigi, tutto dipende di tipo di pubblico. Quello che della mia esperienza nel liceo, noi abbiamo un corpo di non dei professori, sono inspettori accademici, non so come dire, cancellano questi inspettori perché dicevano che non c'è nessuna relazione tra l'università e il mondo medico. Cioè quando stanno facendo i programmi, molte volte questi inspettori accademici sono gente come noi, hanno delle tesi, ma mai hanno potuto entrare nell'università. Cioè hanno tutte le conoscenze, esattamente che tipo di storia fare, ma non hanno strumenti perché sono funzionari dello Stato. Dunque ci sono queste proposte, no, di fare l'Europa fuori l'Europa, dopo l'impossibilità assoluta di avere un dialogo con le università locali per sapere che tipo di documento, che tipo di immagini, che tipo di strumenti, cioè hai un problema antico di circolazione tra il piano primario e secondario e il piano universitario, di questi maestri nel liceo tutto pensando nella possibilità di uscire dal sistema scolare per entrare nell'università e mai più tornare indietro, no? Grazie. Allora, solo una cosa a proposito del rapporto scuola-università, nella maturazione storica della formazione degli insegnanti in Italia, lo stadio attuale è che noi ci troviamo a fare corsi di formazione che accreditano i docenti delle scuole nelle loro materie. E io ho avuto una sola esperienza. avvicinati i docenti che sono pionieri perché sono i primi che insegnano nei licei cinese. Non esiste ancora una categoria, la dizione del settore ministeriale non esiste ancora, tanto per dire, siamo proprio alla fine. È stato veramente molto interessante trovarsi a dialogare, perché ci rendevo conto che io non avevo nessuna idea di come loro dovessero lavorare, e contemporaneamente mi sembravano scontate delle cose che loro prendevano invece come delle scoperte notevolissime. Quindi non so se questo tipo di formazione funzioni, perché non mi sono mai occupata seriamente di una visione complessiva della questione. Però da un certo punto di vista, se c'è un minimo di dialogo in due direzioni, in una realtà come la formazione, potrebbe essere un momento di confronto costruttivo da questo punto di vista. Certo. Grazie a tutti, al relatore, a tutte le persone che sono intervenute, a quelle che ci hanno salvato prima e soprattutto al primo dei dottorandi. E quindi riflettiamo su questi temi e invito a chi ha partecipato relativamente, spero magari che pensiamo di trasformare questa cosa in una cosa scritta.